Andare alla zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta. Questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta. Io mi sono stufato. Gli ho dato fiducia e hanno fatto dell'ironia sul terremoto. Allora, ciao. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Quanti soldi devi avere? Dalle ma perché sono solo? Porca la puttana, è andata a fanculo! Pagato da Sad! Pronto? Io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sto nome. Chi? Massimo Carminati, segnatelo. Perché me lo devo segnare? Massimo Carminati, segnatelo, così vai su internet e vedi chi sono io. No, scusa, tu mi hai chiamato con un numero nascosto, che cosa mi segno? C'è scritto segnalo il tuo nome, ascolta a me, così no. Vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. E dai, ma chi se ne frega, chi ti conosce? Io sono quello che abita là. Ma vi rendete conto che orario è questo? Vi rendete conto? E mi fa meraviglia, e scriverò a Boccia, che sfinanzi una trasmissione del genere con i soldi degli industriali. Siete dei grandi mangiacapelle e segaioli che vi divertite a fare delle trasmissioni così sporcaccione e schifose. Segaioli siete? I trans, la frequentate i trans? Ma io dalla mia voce... pensa che ma che discorsi va? Ma perché i trans che c'è di male? Mica sarà razzista nei confronti dei trans? Che male hanno fatto i trans? No, per l'amor di Dio, ma non può. Ma cosa cerca di cosa? Io ma non balbetti, non si preoccupare, l'ha fatto i trans o no? Ogni no, tanto... Baldracche sì, ma trans no. Baldracche sì, trans. Senti come parla, poi siamo noi volgari, io mi. Insomma. Cubana rifatta, un chiavatone esagerato. Allora, caro David, un ascoltatore Eccoci. Mi ha scritto e mi ha mandato un messaggio. Sì. Dicendo che da questo momento in poi Padova si riempirà di negri. Sì, chi l'ha scritto questo? Un tizio, ti faccio ascoltare con grande Sentiamo. Calma, con grande pacatezza. Questo ascoltatore dice: da adesso in poi Padova si riempirà di negri. Di negri, così dice. Per la vittoria ovviamente della sinistra, l'unica città che è rimasta, unica, in realtà non è l'unica, però una delle poche città naturalmente, che è rimasta poco, è in mano alla sinistra. No, che è tornata in mano, sì, non in realtà, è rimasta, chi ha vinto, rinnega il PD, dice no, io del PD, il nuovo sindaco di Padova, sì, dice tu sei del PD, no, per carità, io civico, non sono del PD, civico, sono sì, civico. Prendere distanze. Vogliamo dire che la parola civico candidato non significa una mazza? Nulla. Lo vogliamo dire o no? Però senza l'unica... i partiti non sarebbe andato da nessuna parte questo signore. Esattamente, questo signore, un signore che ha liberato la città. Vabbè, liberato, adesso non esageriamo. I padovani erano liberi prima e sono liberi anche adesso. Ho parlato con tanta gente lì. Ma dove? Sei stato a Roma tutto il giorno, che cazzo dici? No, dico... per telefono, dici. Sì, no, ma in generale comunque ho sentito un clima diverso, una città che torna a respirare, a vivere in Padova, città di Galileo Galilei, della scienza, tu sai che c'è... Molti mi hanno scritto che c'entra Galileo Galilei con Padova? C'entra, perché come tu ben sai, il Bo, che è una delle università più antiche d'Italia, lì ha insegnato Galileo Galilei, tant'è che dentro il Bo c'è la cattedra di Galileo Galilei, e poi c'è la specola, cioè la città della scienza, poteva la città della scienza... della, restare del barbaro, nelle mani del barbaro. Di tal Bitonci. Però tal, sentiamo questo ascoltatore. Tal. Non lo dico neanche più il nome, dimenticato dalla storia. Tal. Anche Toni Negri è di Padova, ti voglio segnare. Beh, cioè, è un genio, filosofo del diritto, ottimo Toni Negri. Bravissimo Toni Negri. Cosa c'è? Parenzo, due punti. Toni Negri, un genio. Ma assolutamente uno. Condanne varie, eccetera. Ma che c'è? Uno dei più grandi filosofi del diritto. Allora, amici di Libero, avete sentito? Toni Negri, un genio, Parenzo. No, ma è uno dei più grandi filosofi del diritto, assolutamente. Ma assolutamente, amici di Libero. Ma perché li devi istigare quelli lì poi? Che Padova era una delle ultime città senza negri, e invece grazie a te e quelli come te, signor Parenzo ebreo del cazzo, anche a Padova si riempirà di negri. Forse parla appunto di Toni Negri, forse. Quando dici città senza negri, parla di Toni che vive a Parigi. Questo ce la deve avere anche con gli ebrei in generale, deve avere qualche pregiudizio questo signore. Allora, ho letto da qualche parte, per tornare su una vicenda di cui ci siamo occupati ieri, che è quella dell'attore, che io chiamo meglio Pastore, perché è conosciuto come l'agente Pastore della serie 92 e 93. L'agente Pastore, che è quello che l'hai collabora con la Di serie, Pe. L'hai vista? Assolutamente sì. Ti è piaciuta? Sì, moltissimo, moltissimo. Allora, a te e me, non lo so, però chi no, se ne è frega piaciuto molto, non molto ce ne frega più, niente di stare lì a fare un la classifica lavoro. Delle serie. Sono felice che sia una grande produzione italiana. Ma non me ne frega nulla in questo momento. Il cinema italiano vive grazie ai produttori, bravi e grandi produttori. Benissimo. Hai fatto la tua slecchinata ai produttori italiani. Domenico Diele, non sono riuscito a capire come sia Diele. E oggi chiede, ragazzo, però, amico mio, hai fatto quello che hai fatto, sei in mezzo alla merda, probabilmente hai anche finito la tua carriera, non lo so, vedremo quello che succederà, te leveranno la pelle coi soldi e tutto quello che è. Non è che puoi stare troppo fuori dal mondo, però oggi sai che cosa ha detto? Ha chiesto di finire la produzione. Amico mio, hai chiesto di finire la produzione. Chiedere, cioè, ci sono cose più importanti che non la produzione di un film in cui sei impegnato. Più importanti, cioè, quella è la sua vita. Cosa ma deve ho fare? Capito, ma quella è morta, c'è una morta, sei ma in mezzo, siamo senza sei in mezzo dubbi, alla ma merda. Anche confuso. Ma ho capito, chiede di finire la produzione del film. Non mi sembra un atto di arroganza quasi. Chiedo di uscire dal carcere per finire la produzione. Con cosa? Con i carabinieri intorno. Dai, su, è una cosa ridicola. Cioè, uno deve stare anche in questo mondo, non puoi sentirti fuori dal mondo. Chiedo di finire la produzione del film. Ma è appena ammazzato una persona pieno di droga nella macchina, dai, su, amico mio, dai. Non voglio infierire, dovrei infierire, ma quando uno mi dice una cosa di questo tipo, c'è la cugina di quella morta, Ilaria di Lillo, che dice: ovviamente la giustizia in Italia non esiste, l'omicidio stradale di un folle senza patente, drogato, recidivo, si paga con i domiciliari, è vergognoso. E io sono d'accordo con lei, mi dispiace. Intanto è in galera, però, scusami. Ma è in galera perché non hanno trovato il braccialetto elettronico, solo per questo, altrimenti lo troveranno domani o dopodomani il braccialetto elettronico, no? Lo toglieranno a qualcuno che sbatteranno in galera. La cosa incredibile è che lui, avendo diritto, adesso non discuto se sia giusto o no il braccialetto elettronico, ma la cosa vergognosa è che anche lui, avendo diritto al braccialetto elettronico, è in galera. Cioè, c'è il diritto di. Ma diritto per la burocrazia che non funziona, dai. Esatto, la burocrazia, ma una follia, no? È il sistema italiano che producete, spendete tanti soldi in più, buttate tanti soldi dalla finestra, comprate braccialetti elettronici, no? Per quelli che non devono stare in galera, ma devono stare a casa. Sì, questo è ridicolo. Bitonci ancora contro Parenzo questa mattina da Milano e Giannino, sentite. Parenzo festeggerà, però devo dire che ha rifiutato il confronto, quindi questa è una cosa gravissima. Adesso mica Parenzo si deve confrontare a un giornalista. Ha lanciato il confronto Bitonci Parenzo e poi quando gli ho detto va bene, accetto, si è rifiutato. Coniglio Parenzo, lo dico. Esatto. Adesso il confronto non deve essere tra Bitonci e Parenzo, cioè, il confronto deve essere questo. Lo sai che però, allora, tutti dicono che Bitonci è stato arrogante, che non era uno simpatico, che ha buttato via. No, ma quello non c'entra. Ha fatto delle ordinanze folli. In questo momento mi sta ancora più simpatico il signor Bitonci. All'attacco, Bitonci, torneremo! Ma torneremo a conquistare quella torneremo città! Chi? Torneremo noi! Ma un sindaco che si è reso ridicolo. Si doveva alleare o con Sgarbi oppure con noi, con Cruciani. Gli avremmo dato quel migliaio di voti in più. È stato arrogante per questo. Doveva chiedere il mio aiuto. Noi con Cruciani, alleati con Bitonci al secondo turno. Apparentamente avremmo dato un assessore alla sicurezza. Avremmo dato un assessore ai grandi eventi. Sicurezza è stato arrogante, ha pensato di fare tutto da solo. Invece, se chiedeva aiuto a me, a Sgarbi, eccetera, al secondo turno, un grande apparentamento, bastavano poi, alla fine ha perso di 3.000 voti, una cosa di questo tipo. 3.000 voti del cazzo, dai, su, sveglia, amico mio, poca arroganza. Qui bisognava costruire qualcosa di grosso e lasciato la città nelle mani di quattro scalzacani, dai. Quale scalzacani? No, quel Lorenzoni pare buono. Ripresa, otto Lorenzoni, abbiamo ripreso Padova, ma un sindaco che aveva fatto l'ordinanza anti-ebola. La Santanchè. Ma anti-ebola. Aspetta, fermo, ma no, andiamo oltre, andiamo oltre, già detto, andiamo oltre. Andiamo la Santanchè fa un antipasto. Fa impazzire quando dice aspetta, ma aspetta. No, ma aspetta, Trump, abbiamo aspetta. Già parlato ieri. Sì, no, è vero. La Santanchè come piatto forte delle sue cene ha gli astici blu. Amico mio, non si fa scappare niente. Cos'è l'astice blu? Non lo so, sarà un tipo di astice particolare, probabilmente prelibato, molto costoso, secondo me. L'astice blu. Adesso, animalisti, prendetevela con la signora Santanchè, perché apertamente dice di cucinare gli astici blu. Cosa volete? Mettere gli astici in quarantena? Bloccare la produzione di astice? Dopodiché passiamo al piatto forte. Vedete gli astici blu, e qua sto facendo il sugo per gli spaghettini all'astice. Allora, vogliamo ricordare quello che ha detto ieri qui alla Zanzara Zio Gasparri, che ha incitato alla rivolta pubblica anche di piazza, se vogliamo anche per le strade quando passa Fazio, contro appunto il conduttore strapagato dalla Rai per un contratto di non so quanti anni, per un totale, compresa la produzione, di una ventina di milioni. Secondo Gasparri e secondo altri, una vergogna rispetto a come va il paese, ai poveri, alla situazione generale dell'Italia, e soprattutto, dico io, una vergogna rispetto al piagnisteo di Fazio prima, perché se Fazio fosse stato zitto e non avesse detto nulla, va bene, ma siccome prima ha detto c'è la politica alla Rai e non ci permette di fare nulla, questa politica invasiva, non è che la politica è scomparsa, però la politica non è scomparsa. Certo. Secondo te è una cosa per cui la gente dovrebbe pagare il canone, non dovrebbe continuare a pagare il canone dopo questo? Deve ribellare, questo contratto è una vergogna. E dunque come? Non pagando il canone? Dovrebbero anche arrivare, io ho sempre sostenuto che bisogna pagare il canone, di fronte a questo contratto giustificherò chi non paga il canone. Fazio, sì. Mi auguro di incontrare il disprezzo dei cittadini se avrà il coraggio di andare a fare. Sì, cioè, lo merita. Cioè la gente gli dovrebbe sputare addosso. La gente gli dovrebbe sputare addosso. Dire che si deve vergognare. Gli deve dire che si deve vergognare. Cioè, deve rimanere a casa. No, no, deve andare in giro e toccare con mano il disprezzo popolare. Parenzo, prima o poi te vengono a scasso tutto. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta La Zanzara. Beh, una passata di dittatura non è che farebbe male, Parenzo, io ti voglio bene. Ho avallato la tua assurda ipotesi delle bottiglie di plastica da pulire con le brocche. Ho portato la brocca in camera perché io di notte bevo. Ho fatto un casino, meno male che è estate. Vaffanculo, va. A te e quando tu la duretta. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, c'è uno che mi chiede, ma un commento sul sequestro del cellulare della Sciarelli, no? Roma come Ankara? Non lo so, cioè, certamente Roma non è come Ankara, non è come la Turchia. Le fughe di notizie ci sono sempre state, che ne so, sono indagini della magistratura, cosa volete che vi dico? Cioè, hanno sequestrato il cellulare alla Sciarelli, che non mi pare una giornalista, come dire, no, di basso profilo, una che ha i suoi agganci, conduce una trasmissione molto seguita anche dai magistrati, non lo so, non so nulla, è inutile, che cosa commento? C'è un'azione della magistratura per una fuga di notizie, hanno indagato sia lei che il suo presunto compagno... signor Woodcock. Presunto compagno. Sì, non so se sia davvero il compagno. Cioè, è il compagno o no? Come risulta di sì, ma sì, so, questo non è un problema. Il problema è l'indagine. E vabbè, procura, cosa dobbiamo quindi dire su questa indagine che hanno sequestrato il telefono? Non c'è da dire niente. Cosa puoi dire? Non c'è niente da dire. C'è da dire che è così. Adesso chiamerà qualcuno, dirà che è stato De Benedetti, non lo so chi è stato, chiamerà il pazzo solito. No, la storia di Fazio è abbastanza incredibile, perché oggi a me non me ne frega nulla, uno può dare tutti i soldi che vuole, non mi importa. Io valuto solo la grande ipocrisia che c'è stata negli ultimi mesi su questa vicenda. Prima volevano abbassare i compensi di tutti quanti a 240, poi hanno trovato un escamotage, poi Fazio si è lamentato alla politica, adesso firma con gli stessi che c'erano prima. È tutta una grande ipocrisia, una grande buffonata. Poi va benissimo, se fa fare soldi la Rai va benissimo, ma ti rendi conto che uno che stimo anche, che è tra i capi che gestiscono la Rai in questo momento, che si chiama Diaconale, dice che noi sono, che sono stati costretti dal codice civile a firmare il contratto, altrimenti avrebbero arrecato danno alla Rai? Cioè, siamo arrivati all'assurdo che qualcuno qualcuno sostiene che se non firmavano il contratto con Fazio, cioè se Fazio fosse scappato dalla Rai, avrebbe provocato un danno all'erario. Beh, probabilmente. Ma che cazzo di paese è? Ma non è che la Rai, non è che la Rai può dipendere da Fazio, ma che follia è? Però è evidente che ma non c'è nessuna evidenza, è una follia, dai. No, è è evidente che le star comunque trasportano con sé pubblicità. Ma cosa vuol dire? Se tu fai un'altra scelta e ne prendi un altro, non è che ti accusano di aver sperperato denaro, ma che roba è? Dai, beh, dipende, su. Dipende. Ma dai, sentiamo, sono operazioni di mercato. Sì, ma ho capito, ma che c'entra il codice civile? Dai. Siamo stati costretti dal codice civile, perché se noi non avessimo dalla responsabilità, se noi non avessimo avallato quel contratto, noi ci saremmo trovati sì costretti a rispondere per il danno provocato alla Rai da che cosa? Dall'averla messa fuori del mercato. È una puttanata inaudita, dai. Cioè è una puttanata senza pari questa roba qua. Proprio una grandissima puttanata. Ma che vuol dire? Me la fate sotto. Fate una scelta generale, no? Non per il codice, per la paura di essere citati in tribunale. Dai, su. Beh, lì siccome si... No, però è vero, perché siccome si tratta di soldi pubblici. Ma non pubblici, puoi dire una che... No, ma te lo spiego. Ma non me ne frega niente spiegare della questione giuridica. È una follia che ma uno col codice civile in mano fa una scelta se prende. Sì, perché sì, ma certo, sì, un cazzo. Si tratta di soldi pubblici. Ma chi se ne frega? A chi ci ascolta. Ma chi se ne... Un conto è una scelta di un'azienda privata. Ma cosa che risponde c'entra soltanto ai propri azionisti, spiegare, o ai propri padroni? Lo puoi spiegare ai tuoi amici, non alla gente. No, siamo come? Stati costretti. Ma scusa, ma vecchio mio, scusami, te, vecchio mio, però, siccome il consiglio d'amministrazione, vabbè, è responsabile di quel che fa, e fa un atto pubblico, no? Ma vabbè, è come un sindaco. Un sindaco, se fa una scelta sbagliata, paga di persona, dai, come si... è uguale. Dai, è sono soldi pubblici, devono giustificare come ma li allora spendono. Ma allora anche aver fatto fuori una trasmissione da 4 milioni, certo, come quella di Giletti. Ma certo, e infatti questo è grave. Devono esatto, bravo. Dai. Siccome hanno deciso fermo, proditoriamente fermo. Va bene, Raffaele Padova, vai Raffaele, vai. Ciao. Dimmi. Allora, io sono un padovano acquisito perché sono dell'Alto, sì, Milanese, sì, ho raggiunto, sì, Padova 5 anni fa. Sì. Qui è Padova Italia, cioè Padova è l'uno dei pochi, sì, posti dove, sì, il centro-sinistra, sì, ha vinto e ne stiamo facendo una specie di, ha vinto di fotografia. Sì, però, sì. Cruciani, siccome tu sei il contraltare di Parenzo, che ovviamente dice un franco, dico quello contare, che pensi, dipende dagli argomenti. Insomma, ok, informati magari su chi ha vinto a Padova, che accozzaglia c'è dentro, ex forzisti che hanno, ragazzi, mandato a casa. Accozzaglie, le accozzaglie ci sono ovunque. Ovunque ci sono accozzaglie per amministrare le città. Non c'è, fanno il coalizioni, del kebab. Fanno questo coalizioni che vanno da gente di estrema destra a gente, certo, di estrema sinistra. Succede io dappertutto. Sì, certo, dappertutto. Sono felicissimo perché ma per guarda, 5 anni, ragazzi, non combineranno. Ma tra Meloni niente e Berlusconi oggi, tra Meloni e Berlusconi che c'è in comune a parte? Bravo. Niente. Ma sai perché sono preoccupato? Perché con Bitonci veniva spesso Sgarbi, che io amo tantissimo. Ma verrà lo stesso, figurati. No, non viene, vedrai che non viene. Per cui ti chiedo, per cortesia, aiutaci a noi padovani che ci piace tanto Ma Sgarbi. Non ti preoccupare, ma Sgarbi va d'accordo con tutti i sindaci del mondo, basta che lo invitano, va dappertutto, dai. Ma non lo inviteranno. Ma che ne sai, ma che ne sai? Ma mica sono nemici di Sgarbi questi qua. Ci risentiamo tra un anno e poi consiglierei magari quando vieni a Padova ogni tanto, perché so che ti piace anche te, sono contento allora di questo. Fai un giro all'Arcella a vedere che bell'ambientino c'è. Quando qualcuno parla di, guarda, sostituzione etnica, sì, però amico mio, i quartieri, c'è sostituzione etnica. Benissimo, no? I quartieri pieni come... di immigrati, i quartieri con no problemi ci sono in tutte le, sì, città d'Italia, città forse Padova, anche del mondo. Non in città, delle dimensioni di Padova. Ragazzi, però non c'entra niente i sindaci, no, con gli immigrati, c'entra, dai, su. C'entra le precedenti. Sentiamo questo David dalla provincia di Viterbo. Bel nome. David dalla provincia di Viterbo, Davide. Bel nome questo. Quando in anticipo su Barisoni. Dai, forza, non fare il coglione, dai, dimmi che devi dire. Allora, niente, praticamente se sto freschi, cioè che si è appena defecato, basta solo pulirli con la carta igienica. Ma che cosa, scusa, spiegami. I tarzanelli, l'ho già detto alle comari. Ah, i tarzanelli, alle comari, alle centraliniste, amico mio. Adesso le comari, sì, vabbè, sono centraliniste, vabbè, che fanno i loro ruoli, si fanno un mazzo così. Tu non fai un cazzo dalla mattina alla sera e fai il figo, cioè alle comari. Alle comari un cazzo, vabbè. Chiama le lavoratrici, vabbè, alle lavoratrici dei centralini. Alle lavoratrici. Le comari, allora, le comari. Basta solo la carta igienica. Amico mio, i tarzanelli sono un argomento molto serio, di cui parleremo fra pochissimo, dopo il giornale radio. I tarzanelli sul culo di David, che insulta... Ma e sbaglia le centraliniste. Ah, di David, di lui, David. Eh no, perché qui scatta la querela. Chi sei, Cruciani? Ah, i fenomeni, i grandi fenomeni, bravi, complimenti. Che vogliamo fare, parolacce? Vogliamo fare, che vogliamo fare? Quando una persona del pubblico chiama e dice buonasera, le fa un complimento, non lo deve trattare male. Non lo deve trattare male. Ma hai fatto un cazzato? Non sei buona, una persona vi tratta bene e voi ancora una volta arroganti. Se parla di fregna e parezzo vuoi far Filippino in un sacchetto un attimo, vattene a qualcuno al bagno, no? Hai capito, mone? Hai capito, mone? Da dare un cazzo! OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta La Zanzara. Quartiere Arcella, questa è Padova, se casca sotto i colpi delle truppe parenziane, è tutto finito. Sbrigare che dobbiamo partire, cazzo! Andiamo, belli! La smetta, intervengano i commessi! Allora, guarda, tu non mi credi? Io vorrei parlare di fica! Mi fa star male, sento dalla voce che sta male! Asmodeo, vai via! Palle, Padova è piena di negri, sempre stati negri, anche prima di Bitonci. Negri, Uber Alles. Attenzione, avviso per tutti i negri, le porte di Padova si sono aperte, ora può iniziare l'invasione. Tony Negri, un genio? Tu, Parenzo, veramente hai il cervello spappolato. Sei veramente di un squallore indecifrabile, incredibile, ma veramente una persona squallida a dire queste cose. Dalla vostra parte, orfana del signor Belpietro, impazza Marina Ripa di Meana, che addirittura combatte, indovina con chi? Con signor Fusaro, il filosofo Fusaro. Intanto dice: gli italiani non fanno neanche i bagnini. Sentiamola, mitica Marina, vai. Una volta i bagnini erano i primi, tra l'altro, che avevano il privilegio di dragare le belle signore. Non capisco come mai oggi neanche questo interessa più. Ci sono i bambini. Soprattutto a fronte del fatto che il bagnino si mette al di là di questa retorica da arricchiti. Era ambitissimo. Tutti i bagnini dragavano, trovavano delle belle donne. Per cui era un lavoro. Ma con le belle donne non si campa. Come mai adesso nessuno lo voglia più. Con le belle donne non si campa. Andiamo a vedere i ragazzi che lavorano. Mi scusi, ma lei non ha di questi problemi, evidentemente, perché non ha bisogno di lavorare. Un giovane che oggi debba arrivare a fine mese fatica molto. Da come parla, mi scusi. Parla con un disprezzo tale per i lavoratori. E allora rispetti il lavoro. È una retorica che certe persone non hanno bisogno di lavorare. Perché mi fa schifo. È la solita banalità. Benissimo, allora rispetti il lavoro. I cantucumisti la sanno fare, non glielo permetto. Come lotta la signora Ripa di Meana contro Fusaro, che cercava di fare un discorso il lavoro dei giovani, il bagnino, che questa società è la metafora della contemporaneità liquida. Sì, dovremmo mandare qualche cazzata, supercazzola di Fusaro, eh. Adesso più tardi la mandiamo. Questa sì, è super sì. Cazzola fusariana. Allora, voglio spiegare alla signora transessuale Eleanor Ferruzzi, già ospite, ovviamente, naturalmente, qui alla Zanzara, quella che si è fatta le unghie lunghissime, che si è fatta delle unghie fintissime, quella enorme, transessuale enorme, tutta truccata. Non so di cosa tu stia parlando. Che ha un po' equivocato quello che ho scritto sul quotidiano Libero sulla manifestazione, chiamasi Gay Pride di Latina. Ragazzi miei, una volta per tutte, posso avercela io con il Gay Pride? Qualche eccesso ci sarà pure, non me ne frega niente. Io sono a favore di tutte le manifestazioni possibili del Gay Pride. La gente che va in ginocchio, vestita da cane, vestita da schiavo, le manifestazioni anche quelle più considerate più oscene, va benissimo tutto per me. Ma va bene anche quello che espone lo striscione Viva la Figa. Ora, la signora Ferruzzi dice che io, che è questa transessuale, molto grossa, dice che c'è un articolo volgare, ma quelli hanno fatto un titolo, sono affari loro, i titoli li fanno loro, io non c'entro nulla con i titoli del quotidiano Libero. Io non ho assolutamente definito volgare quella manifestazione, ma semplicemente perché trovo pochissime cose volgari. Parenzo può definire volgare il Gay Pride con la gente per terra e con i culi di fuori? No, beh, no. Sì, assolutamente trovo... sì. No, ma ti dico, magari qualche anno fa mi sembrava una grande novità, oggi magari posso ritenerla in alcuni aspetti un po' una carnevalata, ma non mi permetterei mai di censurare né di chiedere a chi. Qualche anno fa era sicuramente innovativa, era bizzarra, era curiosa, era utile. Oggi magari... Sentiamo la signora Ferruzzi, vai. Non mi disturba. Allora, io trovo volgare, volgarissimo, ok? Condizionare il pensiero pubblico con una notizia di questo genere. Io trovo volgarissimo la strumentalizzazione del pensiero pubblico con queste cose. Queste sono cose allucinanti, allucinanti. Ma che bordini? È sempre lei. Ma che ha fatto? La super cazzola pure lei. Ma siccome l'hanno messa sulla prima pagina perché c'era lei in foto, no? Dicendo questa è una cosa volgare. Senti qua che dice. Dice non vado a escort e a casa ho la famiglia. Cioè, ha anche ragione quando dice io non sono ipocrita. La volgarità è nascondere le cose. Cioè, quelli che vanno con l'escort, vanno con le trans e poi a casa fanno i padri di famiglia. Non sono io quella che va a chiamare gli escort o le escort e fare le peggio porcherie e a casa avere la famiglia del Mulino Bianco. Questi non siamo noi. Gay Pride, orgoglio gay. Noi siamo questo. Vabbè. Allora andiamo a Bari da Massimo. Vai. Ciao Giuseppe. Dimmi, dimmi. Allora, secondo me ci sono certe notizie. Aspetta un attimo, intanto cerca di chiamarmi meglio, non con l'auricolare, non col via voce, che sono quasi, secondo me non sono vere. In un comune in provincia di Padova pare che un profugo nigeriano, non lo so, non è dato sapere, un comune in provincia di Padova, un profugo nigeriano si aggirava tra le stradine del paese offrendo sesso alle donne che incontrava, ti giuro. Ma ti sembra verosimile? Per ingolosire, infatti secondo me non è così, per ingolosire le signore, il gazzettino, per ingolosire le comari si abbassava i pantaloni e mostrava la mercanzia. Mostrava la mercanzia. Sì, ti giuro, così, cioè, gli abbassava i pantaloni per attrarre ulteriormente la clientela. Con insistenza si offriva per incontri intimi anche di fronte al diniego delle malcapitate. Ecco. Nel giro di poco tempo le voci su questo comportamento si sono sparse e il migrante è stato subito allontanato dalla cooperativa che gestisce il centro di accoglienza. Ah, c'era quello dei Tarzanelli, sì, David, sì, quello dei Tarzanelli. No, io sono qua, non mi... No, un altro David. Chiedo che venga cambiato il nome a questo qui perché è infama il mio nome. Dimmi. No, lei infama il mio nome, se dice David... No. Vuole parlare dei Tarzanelli, dai, facciamolo, dai, facciamolo parlare. Se uno frischi Tarzanelli, cioè si è appena defecato, basta solo pulirti con la carta igienica e il problema si risolve. Se sono passate più di 3 o 4 ore, sì, cosa possibile, caldo, cosa possibile naturalmente. Sì, no? Perché uno magari non si può lavare subito. Assolutamente. Il bidet è caldo, sì. Massaggiarli con i polpastrelli fino a che si dissolvono nell'acqua. E così ci siamo puliti. Il problema è se passano più molte ore, sì, tarzanellectomia, bisogna proprio tagliare il pelo perché non vengono più ma via. No, lì vengono anche strappando, facendosi un po' male, ti posso assicurare. Male. A me è successo, ecco, di strappare i tarzanelli proprio con le mani, a un certo punto un paio di tarzanelli con le mani vengono strappati praticamente, ecco, e vengono via anche i peli. Qual è il problema? Non ho capito. Cioè, non c'è nessun vabbè, ma fa male, la cosa brutta è quella che è successa a me. Per sì, fare una pulizia troppo aggressiva, scarotando, pulendo, togliendo, sì, mi sono fatto delle micro lesioni, sì, c'ho tutto documentato. Ma con che cosa? Ma con che cosa te le sei fatte? Con le unghie, con le mani, con le unghie. Per ma come hai fatto, scusa, a fare le... per pulire a fondo? Ma io non capisco il senso di queste rivelazioni. Per pulirmi a fondo, per essere troppo, diciamo, certosino nel pulire. Come hai fatto a farti delle lesioni al culo in questo modo? Perché è forza di grattare, alla fine sono entrato in un circolo vizioso che c'ho un prurito anale molto, diciamo, accentuato. Beh, questo è grave, questo è grave. E c'ho anche i certificati, se vuoi domattina. No, ma non è importante, no, non è importante se i certificati, ci credo, insomma, c'hai i certificati perché ti sei grattato troppo il culo per togliere i tarzanelli, questa è la realtà. Vero. Mamma mia, allora, a questo punto volevo dare un consiglio a David, al mio omonimo, sì, ovvero, sì, sì, no, ma tutte le creme, le terapie. Non mi interessa niente, non soffro di questi problemi. Utile perché siete può essere utile, può essere utile. Ma non è utile, non mi interessa. Può essere utile, per nulla. No, ma se dovessero arrivarti i tarzanelli, no, no, segui i consigli del tuo omonimo, David. Tanto omonimo un corno, non chiamarlo no, solo querello perché non può usare così il mio nome. Allora, mi hanno dato una crema che serve per non grattarsi. Vabbè, adesso è non possiamo fare ancora. Vi ho spiegato che a differenza vostra non ho di questi problemi. Ma se dovessero... ma ce n'è un altro di problema, se mi fai finire. Allora, vabbè, questa crema anestetica la usano per mettere le cannule, sì, quando mettono gli aghi, queste cose. Se non fa mia, sentire che porcheria. Quindi, ma non c'è nessuna porcheria, è una cosa medica. No, no, no, che è una infanzia cosa medica, ha avuto. Vabbè, guarda, allora, messa sul glande, sì, ma che c'entra il glande adesso? Sei passato dai tarzanelli al glande, non ho capito. Sì, perché ho scoperto che messa sul glande questa crema che non serve per non grattarsi i tarzanelli, sì, per non grattarsi, diciamo, il prurito. Sì, sì, ho capito. Messa sul glande anestetizza e non dà sensibilità, quindi che praticamente fa per Davide che famiglia soffre di eiaculazione precoce, può essere utile. Guardi, qui veramente è molto grave, scatta la querela per diffamazione, perché lei sta diffondendo dati non veri. Sì. Sensibili no, se fossero veri, dati non veri quanto alle mie. David, io so che lei è un malato di testa e lo ha confermato in questa sua telefonata. Io passerei a Massimo da Bari dopo questi consigli interessanti sul grattamento, eccetera. Massimo da Bari, vai. Giuseppe, dimmi Massimo, dimmi. Senti, io forse intervengo un po' in ritardo, anche vai, se vai, ti pulisci il culo, non è che mi interessi molto. Ma anche tu io te lo pulisci ogni tanto, no? Anche tu te lo pulisci, invece, te lo pulisci o no ogni tanto? Ma sì, ma qua. E allora basta. E allora, quando te lo pulisci, questo ha dato dei consigli su come pulirsi, è una cosa che fanno tutti. Questo ne ha voluto parlare pubblicamente. Non capisco dov'è il problema. Molto interessante. Capito? Te lo pulisci, ti vengono intanto i tarzanelli. Ti vengono mai i tarzanelli, mai, ragazzi, siete tutti mai così precisi. Io intanto ogni 10 giorni sono pieno di tarzanelli. Che ti devo dire? Perché magari faccio delle cose. Non lo so, sei sfigato. Io purtroppo faccio un po' come David. Dopo che ho cacato, mi lavo il culo. Cioè, non lo so. Scusate, mi sembra le volte in questa trasmissione di dire delle cose financo banali. Vi chiedo scusa, sì, ma avete degli stili di vita che state rappresentando, caro Colucciari, che sono veramente lontani dalla maggioranza silenziosa, ma dalla maggioranza della gente, cioè dai una rappresentazione dell'umanità che è sporca, ma la gente non è così. I tarzanelli sporca sono normalissimi, è una cosa, no, a chi non sono mai venuti i tarzanelli, le persone a cui non sono mai venuti i tarzanelli sono anormali, chi si pulisce troppo financo a non far apparire i tarzanelli è una persona disturbata. I tarzanelli ogni tanto è un segno di vita anche quella, cioè dai, su, fermi tutti, fermo. Poltrini, scusami, sei una brava ragazza. Poltrini, sei un'amica dei cristiani ed è morta. Intervengano i commessi. Poltrini, ed è morta. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. We are liars, we are thieves, scheming dildos, dressed like cheap. Pare, certo che fai cagà proprio, fai dei rilati alla ginocchia, quanto cazzo sei brutto all'aria che tiro. Un abbraccio, caro Palenzo, la minoranza silenziosa, anzi no, la maggioranza silenziosa dei miei coglioni. Un abbraccio di nuovo. Chiamatemi, perché è assurdo che l'attore, come dice Davide, hanno aumentato le pene, l'attore che ha investito e ucciso quella persona rischia 16 anni di galera, e oggi il tipo lì, quel bastardo che ha ucciso Ciro Esposito, il tifoso del Napoli, ha avuto 16 anni. Lui l'ha ucciso con un colpo di pistola, l'altro l'ha investito con la macchina. Stessa pena. Allora sì, è vero che oggi hanno diminuito la pena pure al tifoso della Roma, portandola a 16 anni al tifoso della Roma che sparando uccise Ciro Esposito, ve lo ricordate, in una finale di Coppa Italia 3-4 anni fa, non so i tecnicismi del processo, comunque in generale se ha sparato e ucciso è pochissimo 16 anni, pochissimo, non poco, pochissimo, pochissimo. Allora, la cosa incredibile sulla vicenda di Pastore, quello che si chiama Pastore nella fiction 1993-1992, cioè Domenico Diele, che ha investito e ucciso sotto, probabilmente sotto l'effetto della droga, lui dice, mentre stava armeggiando col cellulare, poi si è detto eroinomane, ha ucciso una signora, una ragazza, una donna di 48 anni. Ecco, sono nate delle pagine su Facebook di puro odio nei suoi confronti. Senti qua che cosa dicono. Fallito, tossico, figlio di puttana, decidi tu di quale giustizia vuoi morire. Appena esci saremo fuori ad aspettarti, vedrai, bastardo. Beh, questo è frutto, sai di che cosa però? Ma non è frutto di niente, è frutto del fatto che le stesse cose le pensavano prima e non sapevano dove scriverle, adesso le scrivono, dai. No, su. Ma è frutto anche di questa campagna che viene fatta, che sembra sempre che le pene siano... No, io non ho fatto una campagna, io sto dicendo... Dice, sembra, se, di ma sembra che mi non stai dicendo che è colpa mia. Paglia. Io ti ho detto che deve andare in galera, punto. Io dico che quando si fanno delle campagne in cui si incita la gente a tagliare la testa ai criminali, a ucciderli, a voler la pena di morte, a sparargli e quant'altro, è una campagna molto in voga nel nostro paese. Poi addirittura c'è una... Ti devi stupire se poi la gente reagisce non così. Mi stupisco, io ti sto raccontando quello che succede. È frutto di una campagna di odio, ma una per campagna... cui si pensa che il criminale debba essere giustiziato e come sinonimo di giustizia vuol dire ucciso. Certo che la giustizia italiana, certo che la giustizia italiana, tu alimenti questa no, roba. No, io non alimento un cazzo, il modo di agire che della poi giustizia l'imbecille italiana si sente in diritto, no, l'imbecille si sente in diritto di scrivere quel che hai sei citato, sei completamente pazzo, perché io sto dicendo che la colpa è della giustizia italiana che lascia libere le persone spesso dopo poco tempo, questo è il punto fondamentale. Io non c'entro un cazzo, io denuncio il fatto che uno, pur avendo ammazzato una persona, non poteva portare la macchina, pieno di droga eccetera eccetera, al massimo farà con tutti i benefici eccetera 7-8 anni, questo denuncio, certamente non lo minaccio di morte. Qui ho letto i domiciliari, brutto figlio di puttana, hai distrutto una famiglia e ti danno i domiciliari con il braccialetto, la prossima volta ti devono dare anche una collana e un bel paio di orecchini, che schifo, in galera devi marcire per minimo 20 anni, altro che domiciliari eccetera eccetera. Pure Gasparri che dice, altro che a casa col braccialetto, questo tizio deve stare in galera. Signor Gasparri. Sì, vabbè, appunto. Che però è un legislatore e se vuole che quello resti in galera, beh sì, fa le leggi, no? Beh, questa è molto buona questa che hai detto. Fa le leggi. Oggi ha fatto le pulizie come alla 7. Sì, come ho visto. Foto, se vuole cambiare le leggi, lo faccia in Parlamento. Cioè, sì, sono le leggi che ragazzi, fa lui. No? Ma questi qui fanno propaganda sulla pelle dei morti, dai. Cioè, voglio dire, c'è una propaganda in corso sulla pelle di chi commette reati, omicidi, eccetera. Si sta per cui, guarda, il paragone con quello lì che ha ucciso Ciro Esposito, no? Sui 16 anni, letta da una persona con cui dice: sì, com'è possibile paragonare quello che ha ucciso volontariamente con l'omicidio stradale? A tutti possono sembrare pochi 16 anni, perché sempre di una vita umana che si è spenta si parla, no? Ma noi dovremmo dire che sono cose diverse, cioè il diritto regola proprio questo, serve sì, a questo. Certo che sono cose diverse. E allora, è vergognoso che poi venga fatta la gogna, ma perché viene fatta la gogna? Perché c'è questa campagna di odio nei confronti in generale, ma che il criminale deve morire. Di odio, sì, dai, perché per te su. Il tuo fondo è che il criminale... Allora, quanti anni di galera meriterebbe? No, l'Italia non paga secondo niente, nessuno, nemmeno stare, quelli che hanno distrutto stare, le vite delle persone che hanno perso i risparmi con le banche, dai su, non paga un cazzo nessuno tranne i poveri cristi, questo è il punto, lo sai benissimo che è no, così. No, però scusami un attimo, secondo il codice di Cruciani, che non è il codice giustinianeo, il codice in vigore, quanto dovrebbe prendere l'attore che ha ucciso la una persona che ha ammazzato in quelle condizioni in generale, senza poter portare quello sulla strada, non ci doveva nemmeno stare. Secondo questa il è un aggravante, 5 anni in più, 10 anni in più, non potevi avere la patente, 26 non... anni di galera, no, 25 anni tutti, 25 ma certo, anni ma minimo 25 anni di galera tutti. E quello che ha invece ucciso Ciro Esposito, ma quello è l'ergastolo, che vuol dire ergastolo? Ma certo, l'ergastolo, ragazzi, ma di che parliamo? Facciamo il codice, sembra che dico una cosa assurda, uno piglia la pistola, ammazza uno, non pigli l'ergastolo, ma dove lo pigli l'ergastolo? Esistere 26 ma non anni, esiste 30 anni di galera, è come fosse l'ergastolo, non è vero, che, non c'è, ma per uno che non ne esiste. Ha 40, ma non me ne frega un cazzo, scusami, se ammazzo una persona, mio, ne può avere 18, ne può avere 70, scusami, non me ne frega mio, niente. Per uno che vabbè, ha 40 allora, anni allora, e gli una cosa viene normale, comminata vabbè, una pena di 30 ma anni noi, di galera, ma noi che ce ne frega, ma ho ammazzato io, ho deciso io di ammazzarlo, se tu ma ammazzi uno, se tu ammazzi uno resti in galera minimo 30 anni, minimo, ma d'accordo, sono il tuo stato di diritto. In America chiudono le carceri, buttano la chiave, sei ammazzato, è americano quando gli fa comodo, pensate, è incredibile. Ma è americano c'entra? Quando gli fa comodo, quando Obama smantella il proliferare di armi, è un disastro, un negro che vuole che, ma che la gente non ho mai detto, non siete, chiamato siete, negro, siete incredibili. Vabbè, voi della Massimo vostra parte siete, siete gente incredibile. Noi con Cruciani vogliamo una cosa molto semplice, vogliamo che uno, se ha ammazzato una persona, paghi duramente fino alla fine. Se l'ha ammazzata, paghi molto duramente. Le vite umane sono vite umane, cazzo. Quel tizio là è vivo in galera, quella è morta a 48 anni, chiaro? Se non stai in galera uno così, minimo 20 anni, ma chi cazzo ci va in galera che non poteva nemmeno portare la macchina? Non ho niente contro questo signore, per carità, la macchina però non la poteva nemmeno portare, aveva la patente sospesa, ha ammazzato una persona, ma se non fa minimo 20 anni uno così, ma chi cazzo li fa a 20 anni? Chi? Nessuno. Non dici? Potevi portare la macchina, eri drogato, ma eri distratto, hai ammazzato una, ma che dici che vabbè, nessuno fa 20 anni sì, di galera? Ma sì, assassini seriali, ti rivelo, questa roba ti rivelo di più. Marcello Dell'Utri, che credo andrò a trovare in carcere la settimana prossima, sì. Ma è, mi pare, in galera alla veneranda età di più di 70 sì, anni, quindi non è vero che il carcere non lo fa nessuno. Ma che nessuno c'è, farà 4-5 anni, dici, ma quello delle che ha ammazzato le persone, ma mica ha ammazzato le persone, esattamente, che dire? Quindi vedi che il carcere lo si fa, ma cioè chi non ha detto puoi che non lo si diffondere... fa? Dai, io sto parlando degli assassini, no, tu diffondi, dai, diffondi malumore, diffondi Massimo sfiducia Bari, nelle istituzioni, ma che me ne frega, sfiducia nelle imprese, sì, anche dimostri sfiducia, fai pro, dimostri, sei uno sfasciatore, sei uno sfasciacarrozze, no, sfasciacarrozze, sei un distruttore. Eravamo con Massimo, dai, Massimo, eravamo, non me ne frega niente, posso dirti che io non allora, lo ascolto. Però hai litigato con Federica prima, Massimo, aspetta un attimo, facciamo sentire il litigio Parenzo-Federica. No, ma io non litigo, conduco, figurati. Non, beh, no, non, poi no, battagliato questo Federica. Ma che devo fare? Ma mica ti ho detto Cotica, come si dice a Roma. Non mica detto che hai fatto male. Che devo stare lì, dico scusi, può parlare lei. Ma non ho detto questo, hai fatto benissimo. Perché per voi questo è stato la signora Chienge è stato ex ministro dell'integrazione. Perché ha fatto delle politiche nefaste. Il male assoluto. Gli avete detto di tutto. Ha fatto delle politiche nefaste. Negra, mangia banane. No, mi scusi. Di tutto gli avete detto. Mi scusi. Non solo voi. No, ma mi scusi. Banalizzare in questo modo. Guardi che noi l'abbiamo contestata per la pessima politica che ha fatto da ministro. Come abbiamo contestato in modo, penso, ancora più duro, forse il ministro Alfano. Scusi, ma me lo spiega anche perché mi faceva fa fare un ragionamento, perché faceva però, così rabbia fa fare, il fatto che ci fosse un ministro di faceva, colore all'integrazione. Avanti, ma lei parla, lei continua con questo, con questa definizione assoluta, io dico perché è un cattivo, perché secondo lei è stato un cattivo ministro, un cattivo politico. Non me ne frega niente del colore della pelle di Scichele, ma niente. Ma secondo lei è sbagliato? Ma secondo lei è sbagliato avere un ministro di colore? No, assolutamente no, ma chi mi ha detto? Un ministro all'integrazione. No, è sbagliato avere un ministro all'integrazione che fa politiche di quel tipo. Allora, eravamo con Massimo da Baris. Una delle cose migliori fatte Pronto? Dal governo Letta è proprio no, mettere no, la ministra. Io non discuto la persona Chienge, perché non dico né perché negra né nulla. È un segnale fortissimo che non tu mandi alle comunità migranti. Era un ministero inutile, Massimo, vai. No, Massimo. No, e come va in Francia c'è? Come va in Francia Sarkozy, ma uomo dai, della roba destra, vecchia, dai, Massimo. Uomo gollista, istituì il ministero Massimo, per dai. L'integrazione. Pronto? Roba vecchia, vai. Andate a vedere cosa fanno all'estero. Vai, Massimo. Posso? Sì, dimmi. Siete finiti voi, finiti. Io voi, questa vulga è finita. Ma dove questa roba è finita? Dovete farle le valigie. Hai vinto solo a Padova, hai vinto. No, ma chi Massimo, ha vinto nessuno? È finita, non esiste più questa. Siete finiti. Ma di vai, che vai. Parti? Dai. Te lo dico io, siete lo sai finiti? Che uno di noi con Salvini in Sicilia, un tale Bozza, ha definito animali alcuni in un centro per rifugiati che ti hanno tirato dalle sedie, sembra. Animali rifugiati. Massimo, dimmi. Allora, paese. Io sono d'accordo con Giuseppe per la pena severa che dovrebbe subire uno che uccide qualcuno sulla strada, specialmente se gli hanno tolto la patente per uso di stupefacenti. Guida un'auto durante un film facendosi vedere sapendo che non può poter guidare. Poi? Prende un'auto e fa diverse centinaia di chilometri per andare a un matrimonio drogato, quindi... Vabbè, lo sappiamo già, però, stai riassumendo la situazione. Un'auto senza patente, senza assicurazione. Senza assicurazione, è chiaro che... Utilizzando un cellulare e si dice pentito. Sì. Allora, il numero di reati sono immensi, sono uno dietro l'altro. Quindi il più grave è il più grave abituale. Non so, abituale non credo. La cosa più grave è che ha ammazzato quella. Poi? Tante di queste cose. Confrontato con chi? Perché hanno aumentato le pene per l'omicidio stradale? Prima, qualche anno fa, amico mio, cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Spiegami. Che mandarlo a casa è un cattivo esempio. Ma non lo so, non è questione. Io mi incazzo perché mandarlo a casa subito per me è una follia. Però lasciamo perdere questo. La cosa incredibile, a parte il fatto che oggi lui chiede di poter finire la produzione di un film, qualcuno mi scrive: ama la produzione è importante, c'è tanta gente che lavora. Sì, amico mio, è tutto importante. Però la produzione del film non si può. Questo film non si potrà finire con questo attore. Adesso ti attacchi a questa cosa qua. Insomma, quello è un poveretto che evidentemente stava anche male. Non ho detto niente, ho detto semplicemente che uno in questa situazione che dice lasciatemi finire la produzione tu, di un film, se ti arrestassero, cosa peraltro che auspico a questo punto per le, se ti arrestassero può essere. La prima cosa che tu diresti ad fatemi fare la zanzara dal carcere. Non credo assolutamente. Vabbè, Massimo, aspetta. Non è un cazzo da dire. Ciao Parenzo, sei una goccia del merda, tu vatti a tentare un mare, cammi la zanzara. Parenzo, dall'inizio dell'anno 73.380 migranti, Parenzo, hai capito? Sei contento? Indegno? Sei contento? Così ti va bene? Il palermitano dei 5 Stelle contro Parenzo, sottolinea l'arrivo dei migranti in Sicilia. Intanto un altro mi scrive: la Chieng andrebbe bene come orangono al giardino zoologico. Ecco, basta. Vuoi che te lo segnalo questo qua? Sì, basta. Carta, la Chieng andrebbe bene come orango al giardino zoologico. Come si chiama questo tifoso? Dopo te lo dirò. No, dillo ora. Non lo dico, non te lo dico. Allora sei non colpevole. Correo. Copri le parole. Copri i vigliacchi. Copri i criminali. Correo. Sei come quelli che fanno il palo quando fanno le rapine. Sei pazzo. Sei come quelli che quando fanno le rapine, tu sei quello che fa il la palo. La Chieng andrebbe bene come orango al giardino zoo. Correo, e tu vuoi il nome? Voglio il nome, denunciarlo alla questura. Aspetta, immediatamente. Intanto... Sei come quelli che fanno il palo. Chiudete l'audio. Fai il palo. Palermitano contro Parenzo. E io a te che sei contento e terrire, Parenzo. Te la fondassi 73.380 pugni e mocca, Parenzo. Te merite chizzo, pezzo di merda. Quando poi l'emergenza diventerà proprio un'emergenza che c'è la guerra civile, o prima che venga a piglia a pugnantezza sei tu, Parenzo. Pezzo di merdaccia, schifoso e indegno. 73.380 cristiani, una 6 mesi. E per te è normale, cercatore di felicità. Io devo andare a cercare la felicità e devo andare a scassare la minchia a cannonata, è vero Parenzo? Pezzo di merda. La traduzione dal palermitano è molto chiara. Ce l'ha con Parenzo, insultandolo più volte perché è a favore dell'arrivo di quelli che lui chiama i cercatori di felicità. Ricordiamolo sempre. Mentre secondo questo signore siciliano vengono qui solamente a non fare un cazzo, a rompere i coglioni, a disturbare i siculi. Qual è il contributo che dà lui? Però io chiamerei il signor Bozza, che è quello di noi con Salvini, che ha definito animali gli immigrati che hanno fatto un po' un casino in un centro. Se ti piace così. In un centro di Palermo, non so dove, no? In un centro in provincia di Caltanissetta, se non sbaglio. Bozza, noi con Salvini in Sicilia, sentiamo. Pronto? Bozza! Sì, chi è? Ma che hai combinato? Sono Cruciani. E Parenzo. Ah, Cruciani e Parenzo. Che hai combinato, amico mio? Hai detto animali agli immigrati. No. Ma come no? Non ho detto animali agli immigrati, assolutamente. Questa è questi una animali giornalistica. Asco, ma che ricostruzione? Assolutamente scorretta. Scusa, hai scritto questi animali vanno rimandati a casa loro. Questo è scritto. Sì, parlando di chi ha tirato e ha lanciato dal balcone letti, sedie, tavoli, fregandosene altamente se passava qualcuno di là sotto. Era questo riferito, non al fatto che fossero migranti, non è questo il punto. Se l'avessero fatto italiani o migranti non cambiava nulla. Ma che è successo lì a Casteldaccia? Che cosa ma è successo? Hanno combinato un manicomio, hanno preso i letti, tavoli, hanno lanciato tutto al balcone per protestare perché a quanto pare non gli piaceva il cibo. Non ho capito, non è un caso che le definite animali, dai. Ma perché non si possono lanciare così le cose al balcone? E su questo siamo d'accordo. Io credo che chiunque avrebbe sicuramente condannato questo episodio, tranne ovviamente la sinistra che invece ha detto che non c'è nulla da condannare, da condannare le parole di Vozza. Magari avrò esagerato, possibile, sì, benissimo. Esatto, meno male. Siamo d'accordo, però non si può non condannare. Vabbè, ma tu hai detto poi animali, barbari, invasione, eccetera, No, veramente barbari, invasione, io non l'ho scritto in questo post. Magari l'avrò scritto in altri post. No, in altri post, detto, eccetera. Questi animali non vanno. Ma perché è un'invasione? Per quanto mi riguarda, è un'invasione programmata, è un'invasione legittimata a determinati poteri. Stiamo assistendo ad una invasione in Sicilia, ancora. Una sostituzione di siciliani, secondo ma te? Ancora. Guarda, ti dico di sì e ti dico di più, questa invasione non conviene né agli italiani né agli immigrati che poi arrivano qui e vengono sfruttati. Ma di quale invasione parla? Imprenditori senza scrupoli. Ma qual è l'invasione di gente che scappa tra l'altro, dalla meglio fame? Gli immigrati che i mafiosi, secondo Parenzo. Ma su quello non c'è ombra di dubbio, ragazzi, ma questo è, voglio dire, nella storia, ma l'immigrazione porta forze positive. Meglio gli immigrati dei mafiosi, ma non dei siciliani dirlo, mafiosi. Ma questo è un paragone inaccettabile, perché è evidente che è così. Ma tra guardi, gli immigrati no, questo il 99% sono persone magari che hanno una loro intelligenza, una loro formazione, un loro know-how, arricchiscono la nostra terra. Cioè tu dici a Corleone faresti una sostituzione di palermitani, di corleonesi con immigrati, tu. Voglio dire, il fatto che il signor Rina per anni sia stato nascosto in quella città senza che nessuno battesse ciglio, senza che nessuno lo denunziasse, mi fa dire meglio i migranti che molti di quei corleonesi che per anni l'hanno tenuto nascosto. Non sostituirebbe tutti i mafiosi siciliani con gli immigrati? Sarebbe un'idea straordinaria da un certo punto di vista. I mafiosi li metterei in galera, credo che quello sia il loro posto. Dico, incarcerati, buttati via le chiavi, e non credo che possano essere paragonati a nessuno, perché atti mostruosi come quelli che ha fatto Rina e altri non possono essere paragonati a nulla. Per quanto riguarda gli immigrati, Parenzo sta finendo di sentire sto delirio. Dopodiché, delirio, sta dicendo semplicemente che quelli che hanno fatto casino in un centro di accoglienza. Mi hai stufato tu, noi con Cruciani, ma anche posso dire che mi ha stufato questo qui? Posso dire che mi ha stufato? Ha detto che gli animali. Questa persona, come tutte mi ha stufato. Non sopporto più questa gente che specula sulle tragedie di quelli che arrivano e poi non è capace di dire un cazzo sul fatto che il signor Rina per anni è stato Ha detto meglio i migranti, che almeno come dire, hanno una ragione per delinquere, perché hanno una ragione se delinquono, perché arrivano qua, scappano dalla fame e dalla guerra, vorrebbero inserirsi. Ma magari fame e guerra, che non c'è nessuna guerra, i migranti, di che nessuna. Cosa sta parlando? Non c'è nessuna guerra. Quello è vero, ma però non c'è nessuna guerra. Dice Parenzo meglio gli immigrati che l'omertà, che l'omertà. Lei mi deve dire come giudica quei corleonesi che per 15 anni hanno tenuto nella loro Corleone, non è New York. Corleone non è New York. Quel signore lì è rimasto nella sua. Cioè, tu meglio gli immigrati che l'omertà. Che l'omertà. Posso rispondere? Oppure deve parlare solo lui? No, ma non c'è da rispondere. C'è da vergognarsi, non da rispondere. C'è da dire io mi vergogno. C'è da dire. Vergognarsi del fatto che. Dei nigeriani hanno importato il sistema mafioso a Palermo, alleandosi con i mafiosi locali. Nigeriani. Ma sentita questa notizia. Ma saranno la manovalanza della criminalità, ma saranno diventati la manovalanza, ovviamente, no? Come avviene sempre nelle sacche di povertà. Ma non è normale. Ma come non è normale che a Corleone quel bandico lì, quel pluriergastolano lì sia rimasto per anni a Corleone senza che nessuno dice, no, lui dice meglio la mentalità dei meglio i migranti che l'omertà dei siciliani. Ma ragazzi, ma questo senza ombra di dubbio, non è che lo dico io. Per quanto mi riguarda, non dei siciliani, di alcuni italiani onesti, per bene. Vabbè, solo quello, quella è la mentalità giusta, vabbè, per sì, quanto d'accordo, mi riguarda. Dico, vabbè, poi attenzione, il problema non è il colore della faccia, pelle. Faccia un bel italiano post, oltre che il post su questi che hanno lanciato, ovviamente episodio da condannare, Letti e non so quale altre cose. Faccia un bel post per denunciare l'omertà che in tutti questi anni ha fatto sì che il signor Riina potesse rimanere lì, che per l'arresto ci sono voluti 15 anni per arrestarlo. Faccia un bel post anche, ma guardi, su quello. Ho sempre fatto battaglie contro la mafia, contro il sistema mafioso. Mi sento un po' offeso anche da queste parole, però dico va bene. Ma come offeso? Io mi Bozza, sento offeso. Ti saluto, ciao, ciao. Bozza. Perfetto, ciao, a presto. Ciao, ciao. No, la cosa più incredibile che ho sentito, se non sbaglio, David, è i nigeriani hanno importato il sistema mafioso, cioè hanno portato dalla Nigeria la mafia in Sicilia. Cioè, questo è abbastanza incredibile. Sì, cioè, i nigeriani che arrivano in Sicilia hanno portato la mafia meno in Sicilia. Meno male che ogni tanto anche tu ti indigni. No, sì, ma per carità, meno male, assolutamente. Meno male, se ti torna qualche sprazzo di lucidità. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità? La Zanzara. Non ti fai Elena, perdi il rispetto della maggioranza silenziosa. Schienala! Schienala! Uè, Parenzo, pensavo di essere della maggioranza silenziosa mentre mangiavo ieri sera, poi sento... Stavo mangiando la pizza dentro il cartone con la bottiglietta d'acqua appoggiata sul tavolo, strappavo la pizza con le mani, avevo anche il parmigiano grattugiato dentro di un sacchetto e ho capito che non sono della maggioranza silenziosa. Ero convinto, ero convinto. Poi questo tuo parlare di bottiglie di vetro, di eleganza, mi sono reso conto che no, non sono della maggioranza silenziosa. Peccato. Parenzo, le donne facciamole squirtare nelle brocche di vetro, altrimenti è volgare. Io, dopo la terza birra, preferisco Parenzo. Allora, il signor Salvini oggi, certo Parenzo, ormai tutto porta al fatto che tu ti farai questa Elena, assolutamente, cioè tutto porta verso quella soluzione, fattene una ragione, o fai così, oppure anche i tuoi adepti, anche i pochi che appartengono alla cosiddetta maggioranza silenziosa. Sono la maggioranza silenziosa, sanno meglio di me, questi che chiamano sono dei fake, si tu tramutano. Tu dici sono dei traditori della maggioranza silenziosa. Sì, la maggioranza silenziosa non parla di questi argomenti, si sa già, è così. Ma non è vero, è vero, questa è gente che appartiene ai tuoi stessi usi e costumi. No, e, a parte però... uno che mangia pizza nel cartone con la bottiglia di plastica. Guarda che anche tu, ci sono delle foto che circolano su internet dove tu mangi e bevi nelle lattine. No, lì era il pre-cena in cui si stava allestendo una situazione di fortuna davanti alla televisione. Anche in radio mangi, bevi l'acqua nella bottiglia normale. L'acqua purtroppo qui non c'è una brocca. Purtroppo qui sì, certo, qui c'è la bottiglia di plastica perché purtroppo qui non c'è la brocca. Tu dici a casa a tavola, dici? A casa a tavola ti posso garantire. Ecco, specifica però, specifica. Che il 90% delle... può essere capitato una volta che aveva fatto una foto mentre si stava apprestando a organizzare la cena e quindi è capitata la bottiglia di plastica, ma è stata subito messa via e l'acqua riversata in una brocca. Ripeto, blocca, non mettete sotto le brocche quelle cose d'argento che sono robe che a Gomorra le puoi trovare, solo a Gomorra, ma i sottopiatti d'argento invece si possono utilizzare, cioè i sottopiatti d'argento con una tavola in fiandra, con una tovaglia, in fiandra ad esempio bianca, è di molto molto elegante. Quindi sottopiatto d'argento sì, non il coso d'argento sotto la brocca di vetro, quello è un po' volgarotto, è un po' da arricchito. Queste le precisazioni parenziane, precisazioni parenziane che danno il quadro di cosa vuol dire l'inferno in cui vive Parenzo, praticamente l'inferno di formalità. Anzi, ho imposto io queste regole. Io quando sono a casa anche da solo, io mi apparecchio con la tovaglia, ovviamente, i fazzoletti di carta. Quando tu vai in una casa e ci sono i tovagliolini di carta, di carta. Ottimo, ottimo. Tovaglioli di carta. Dai, ma dove siamo? Siamo in un autogrill? All'autogrill? Sei vergognoso, amico dai. Mio, ma dove siamo all'autogrill? Mi viene tristezza. Vanno messi i tovaglioli di cotone, ovviamente, no? Tovaglioli di cotone. Ma tu perché hai sempre i tovaglioli di cotone di stoffa? Sempre a casa, ma sempre. È evidente, anche ma è evidente, solo, un cazzo, sempre. Ma è una rottura, ma di coglioni. Naturalmente, c'è qualcuno che lava per te, come so, che pulisce a posto tuo, ma come al solito. Sono persone di servizio, diciamo. Predisposte a fare questo, ma non, voglio dire, non è quello il tema. Il tema è che anche quando stavo da solo, no? È tutto il tema mio, la brocca da 30-40 euro. Anche quando stavo da solo, anche a Roma, mettevo sempre la tovaglia, mai e poi mai tovaglioli di carta. Perché dai tovaglioli di carta si va a finire poi alla carta igienica. Ed è inelegante. Allora? È triste, è triste, è brutto, è abbruttente, è brutto. Allora, non va. Perché tu sei riccone, tu sei. Questo no. Allora Salvini dice: al CARA di Mineo stanno protestando per il caldo, i migranti vanno caricati sul primo barcone e riportati a casa. Chi ha detto questo? Il signor Salvini, siccome protestano per il caldo a Mineo, al CARA di Mineo. Io non capisco Domitilla Savignoni che dice viva i tovaglioli di carta. Ma ha ragione, una donna, ha ragione signor Domitilla. Da una donna elegante, ha ragione perfettamente. Come lei, ma non c'entra l'aspetto. Un cazzo, tant'è a parte che ci sono dei a casa sua non ci sono mai ci tovaglioli sono di dei carta, a parte non è vero, ci sono tutto dei, molto elegante. Ci sono dei tovaglioli di carta, dei tovaglioli di carta ormai meravigliosi, meravigliosi. All'autogrill con i tovaglioli di carta. All'autogrill, immagino. Sei veramente una vergogna. Sentiamo Salvini, vai. Dai. Se ci sono gli immigrati ospiti del centro di Mineo che stanno bloccando la strada perché pare che abbiano caldo. Hai capito? E qua che risposta gli dai? La dai moderata, la dai liberale o li carichi sul primo barcone e li riporti là da dove sono arrivati? Con tutto il rispetto possibile, immaginabile e con moderazione. Un tempo non li potevo vedere. Intanto, una roba intanto di una disumanità. Ma che disumanità? Rara, dice, non puoi protestare, c'è caldo. Anche non noi abbiamo per il caldo. Anche non noi abbiamo poter... caldo. Sì, che... ma vivono come le bestie in quei posti. Bah, lo vuoi capire o no? Non mi è sembrato dai servizi che ho visto. Non mi è sembrato in alcuni centri. L'avvocato Trucco scrive orrore i tovagliolini di carta. Ma quindi c'è orrore. Un dibattito aperto all'interno della famiglia. Ma ovviamente siamo tutti d'accordo che i tovagliolini di carta sono da autogrillo, da takeaway. Mangia il takeaway, benissimo. Usi i tovaglioni di carta. Vai allora, a casa. Mi stanno mandando delle foto in diretta dalla Cina, o in diretta, o comunque le hanno prese dalla Cina sul Festival dei Cani, dove certamente ci sono dei cani scuoiati, dei cani che vengono bolliti. Ma ragazzi, è normale, c'è il Festival, bolliti, c'è mia, il festival della Yulin, il Festival dei Cani. Se mangiano i cani, certi cani in qualche modo vanno che cucinati. Porcheria, no? Che porcheria. Ma perché che porcheria? Non ho capito. Ti mangi tu la carne qui in Italia? I cinesi non si possono mangiare sì, i cani? Ma è ti mangi la carne di mucca? Cultura. Ti mangi i bovini? Sì, ma è mangi lontana dalla pollo, mia cultura sì. Perché il cane è un animale pesce. Domestico, capisci? L'orata, che cos'ha di più e di più nobile del cane? Cioè, ma non è ho capito. Perché l'orata sì e il cane no? Perché non è domestico. L'orata è un animale domestico, non è un animale domestico. Senti, mangi l'orata? Se io ti faccio un altro esempio. Se mi mangiassi i pesci che ho nell'acquario, no? Non ho vabbè, l'acquario. Ma se avessi un schifo, acquario dai. E mi mangiassi i pesci dell'acquario, mi farebbe un po' impressione, no? Perché dico, ma scusa, sui miei pesciolini, ai quali do anche il cibo ogni giorno, mi farebbe impressione perché sono compagni di casa. Se mi mangiassi il pappagallo che ho a casa, mi farebbe impressione, no? Perché il pappagallo. Ma il pappagallo che ho lì... non si mangia il pappagallo, che vuol dire? Appunto, come il cane, ma non si mangia nella ma non è civiltà. Che mangiano i cani che stanno nelle case lì. Sono cani di allevamento, c'entra. Non rompete i coglioni. Vabbè, con questa quello. Roba qua. Io no, a me non me ne frega niente dei cani. Se aboliscono, se le proibiscono il cibo, i cani in Cina, va benissimo, ottimo. Ma perché rompete i coglioni se da noi si possono mangiare tutti gli animali possibili tranne i cani e i gatti? Non capisco qual è il problema dei cani mangiati in Cina. Perché fa così orrore alla borghesia chic? Oddio, i cani mangiati in Cina. I cani mangiati in Cina. Quelli hanno qualche usanza. In qualche paese si mangiano i cani. E chi se ne frega. Noi mangiamo qualsiasi cosa. Va bene anche quello. Comunque dai. L'indicazione che vi posso dare è: se proprio sotto la brocca sì. d'acqua di vetro volete mettere qualcosa, l'unica cosa che potete mettere per rendere elegante la situazione sono delle sottocoppe di peltro, ad esempio. Allora questo può rendere la vostra tavola è elegante vabbè. Ma sobria sotto coppe di peltro se sì. possibile Allora il palermitano 5 stelle risponde a Parenzo in tempo reale su quello che ha detto a proposito dell'immigrazione Rina meglio gli immigrati che i mafiosi omertosi eccetera. Sì, ma se gli immigrati però li fanno arrivare i mafiosi politici di merda, amici tuoi, che succhio un mafioso di mafiosi, pezzi in me de Parenzo. Gli immigrati chi li fa arrivare? La mafia politica che c'è? Il business, pezzazzi in me. pezzo di merda, Sirrina si dice 20 anni la detanza, Provenzano se ne dice 40, e Messina Denaro se ne ha fatto 20 e se ne fa una oggi 20, è perché lo Stato italiano è una merda di Stato, una merda di Stato, e permette sia l'immigrazione che la mafia, testa di cazzo. Il palermitano 5 Stelle, è un po' di destra il palermitano 5 Stelle comunque, eh? È un po' destrorzo o no? Mi sembra evidente. Allora, cioè, per Titi da Zanzara, il grande ritorno, soprattutto a grande richiesta, di Giacomo della famiglia fascista di Latina. Giacomo da Latina, anzi sì, Giacomo e il padre pure, c'è anche il padre che interviene. Che bella famiglia. Giacomo e il padre che vogliono bruciare i campi Rom. Tipi da Zanzara. Giacomo, provincia di Latina. No, allora, a me dicono che i zingari dovrebbero essere bruciati col napalm. Praticamente col napalm. Sì. O come si dice, chi è no? Che ti sta suggerendo da dietro? Mio padre. Ci vorrebbe la dittatura. No, io non ho Italia. Questo pensiero, però. Ti no, posso... come no? Da no. Come parli? Passami tuo padre un attimo, che così ti faccio subito mettere a posto. Ci vuoi parlare? Ciao Giuseppe, sono Roberto. Io non ho capito una cosa, tu pensi le stesse cose di Giacomo, cioè ci vorrebbe un dittatore qui in Italia? Beh, una passata di dittatura non è che farebbe male, ma d'altronde tutto quello che ha fatto lui, lo zio Benito, è rimasto. Io non vedo altre cose, altre opere, non ne vedo. Non vedi niente tu, grande statista. Non vedo un cazzo, vedo solo quello che ha fatto lui. Tu che cosa faresti con i Rom, con i campi Rom? Sì, Giacomo? Ma con il napalm, quello del Vietnam, per Dio. Tu proprio useresti il napalm come in Vietnam? Come in Vietnam, li brucierei tutti, come hanno fatto loro l'anno scorso, hanno bruciato la strada. Allora, però, uno lì, a Castel Romano, un altro a Via delle Acque Vergini, a Salone. Sì. Dove c'è il campo Roma di più grande d'Europa, almeno proprio allora... prendono proprio tutti lì, proprio alla grande, capito? E quindi ma quelli muoiono lì. Però, ma quelli muoiono. Esatto. Ma almeno sia lodato Gesù Cristo. Giacomo, il napalm pure tu nei campi Rom? Peggio, gli taglierei proprio la testa e gli darei proprio un pasto di maiali, i zingari. Tu, se avessi di fronte un Rom, cosa faresti? Cosa farei? E ride. Che cazzo io andrei addosso con la macchina. Scusate, mi sono distratto, stavo col telefono in mano. Abbiamo trasmesso radio audio in collegamento dalla radio provincia di Reich. Roberto e Giacomo dalla provincia di Latina. Tipi da Zanzara. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore, Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognate! OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta La Zanzara. Immigrati chi li fa arrivare? La mafia politica che c'è? Il business, pazzazzi miei! Lorenzo, quando vuoi. Miserabili! Lorenzo, sei talmente asservito ai potenti che se fossi vissuto in Germania ai tempi del nazismo avresti creato il partito ebrei per Hitler. Perfettamente ragione Palenzo, sono con te, perché guarda, io figlio 1.300 e ho due figlioli, però c'ho da pagare questo mese 120 di Vodafone, 130-140 di carrozzeria, 90 di bollette scadute, però la prima cosa che faccio, ora vado all'IKEA, compro le bocce di vetro e anche quello per il parmigiano, sì, ma vattene a fanculo Palenzo. stai un po' zitto, cazzo! Ci stai zitto, per favore? Oh, vedi? Allora, alcuni sindacalisti se la prendono. Però, scusa, forse non mi sono spiegato bene. Le brocche di vetro non sono una questione di, come dire, snob di sinistra, non c'entra niente. Ma è certo, una questione ma di buon gusto. Tra l'altro, sono estetica. Molto più sporche le brocche di vetro rispetto alle bottiglie di plastica. Infatti vanno lavate. Ma sì, ma anche se le lavi è uguale. Lo capisci che è antiestetico entrare in una casa e trovare una tavola apparecchiata e vedere una bottiglia di plastica sulla tavola? È una cosa proprio antiestetica. Ma di non c'entra gusto. Nulla. Ma che c'entra? Ma perché chiunque fanno schifo le marche delle cose, delle acque, sì, non ho capito. Mettere le marche lì in tavola, come dice, io ho comprato l'acqua, così metti una bella brocca, una aspetta, buona... Aspetta, dai, su, ragazzi, imparate un po' di gusto. Naturalmente. Allora, Riccardo da Bologna, vai Riccardo, vai. Oh, sulle posate d'argento invece si potrebbe aprire un'altra parentesi, sì, nel senso attimo, che sì. Le posate d'argento possono andare bene, ma in alcune occasioni, altrimenti rischiano di essere pacchiane. Su. E sul servito anche faremo delle lezioni, cioè su come deve essere sul piatto fondo, il piatto piano, come deve essere messo, eccetera. Cioè, anche se non mangiate il secondo e mangiate solo il primo, è brutto e miserrimo avere soltanto il piatto fondo. Voi dovete apparecchiare il vostro posto tavola con una bella tovaglietta, meglio se di Fiandra, poi il piatto piano, il piatto fondo. Sono tutte cose, uno deve avere il tempo, il tempo e le persone che ti, servono a tavola. No, tu hai in realtà delle donne di servizio, hai delle persone che lo fanno per te. No, ma per carità. No. A me non me ne fotte nulla. Il buon gusto impone che se anche mangi il primo, però metti il piatto piano sotto, perché altrimenti fa tristezza. È un'altra piccola regola che vi do, così potete migliorare anche la vostra qualità della qua, vita. Grazie. Stai zitto, ciucciacazzi. Oh, dove sei finita? Lucia, dove sei la finita? La signora è sicuramente una che mette le bottiglie di plastica. Chiamami, ti prego. Non vi dico dove la mette la bottiglia di plastica prima. Non vi ho detto quello. Riccardo, vai, Riccardo. Con l'aggravante. Buonasera, volevo se possibile parlare un attimo con il dottor Parenzo. Eccoci qua, eccola, Carlo, vedi che mi chiama intanto Urgu. Sono in diretta alla radio, Urgu, perché mi chiami? Perché mi chiami? Ti mando in diretta alla radio, ti saluta Urgu. Chi è Urgu? Ciao. Urgu, chi è Urgu? È Urgu, grande autore sardo dell'area che tira, uno degli autori sardi. Vabbè, lo saluto, lo abbraccio, benissimo. Allora, saluta Urgu che ma sei non in lo diretta. Sai che sei in diretta alla radio Ma perché non sai che siamo in diretta alla radio a quest'ora? Scusami. Ho sbagliato l'aria. Ciao caro, non ti preoccupare. Ciao. Riccardo, vai, dimmi. Buonasera, allora, pur potendo comprendere che non si può lasciare la gente morire in mare, rimane tristemente il fatto che non possiamo, ma per questioni anche di metri, fisiche, poter accogliere tutti. Ma l'ha detto l'altro giorno un prete, non possiamo prendere qui tutta l'Africa, adesso Parenzo lo scomunicherà, un tale che si chiama Don Manganiello, che è tristemente vicino a Don Manganello in realtà. Don Manganiello. Non può essere un prete. Ma che non può essere un prete? Cosa? Ha ragione quel prete. Non possiamo perdere tutta l'Africa, non la possiamo prendere. Ma che se ha diritto uno del Burundi, perché non hanno diritto allora milioni, che ne so, dalla Costa d'Avorio? Ma non dai. Vogliono venire qui da te. Ma che ne sai? Non voglio. Certo, in Italia è un paese dove ci sono un sacco di tasse, perché dovrebbero voler venire qua? Tu dici, no? Se mai andranno in un paradiso fiscale, Riccardo, vai. Per questa cosa, i benedettissimi cercatori di felicità. Sì. È evidente che mi pare non possano essere accolti tutti, anche perché questo Stato ha diverse difficoltà. Tipo, una signora a Torino si è bruciata. L'abbiamo visto, certo. Ecco, una storia drammatica che nulla ha a che vedere con l'accoglienza. Come questione noi avremo come Stato prima il dovere di risolvere questi problemi. Una cosa non esclude l'altra. Dopodiché, dottor Parenzo, le faccio una cosa non esclude l'altra, come lei sa cosa vuol dire. Dopodiché, dottor Parenzo, le faccio quella signora che si è data a fuoco non c'entra nulla col dramma, il suo dramma non c'entra con quello dell'accoglienza. Non ha capito, purtroppo. No, Riccardo dice prima aiutare certe persone. E poi i migranti, ripeto, una cosa non esclude l'altra. sì, allora, se ci fossero anche perché l'INPS deve ringraziare gli immigrati che pagano i contributi, perché questo non è stato rovinato. Dopodiché potrebbero essere cercatori di felicità, le faccio presente, dottor Parenzo, anche i simpaticissimi palestinesi che sono stati invasi dai suoi amici israeliani, anzi, suoi parenti. Prima di pensare ai cazzi nostri, pensi ai cazzi suoi. Concludo con un simpatico suoi, quello italiano, mica israeliano. E buonasera. Grazie. Vabbè, Cristina da Milano, vai. Oh, ciao, sono Cristina da Milano. Ascolta, io volevo intervenire per quello che avete detto sul... Sei in viva voce? Magari... Sei col viva voce? Sì. No, togli sto cazzo di viva voce. No, non ce l'ho il viva voce. Sarai in con l'auricolare, non lo so che c'hai. No. Vabbè, allora? Allora ti volevo dire, non è normale mangiare tutto ciò che si muove. Io ti sto dicendo, no. Cara Cristina, ma che cosa vuoi dirmi? Che non è normale mangiare i cani? Ti spiego perché può essere un'usanza e ti do ragione. No, ma non è questione di usanza, ma non è questione di normalità o no, a parte che è una cosa molto limitata. Ma il problema è un altro, il problema è che se si mangiano i cani, perché la carpa o l'orata deve essere considerata più nobile rispetto a un cane? Spiegami perché. Ogni paese ha la sua. Ma no, non è una questione di nobiltà, è una questione anche sì, ma che male fa? Ma qual è il problema? In Cina fanno un festival dove si mangiano i cani e chi se ne frega? Fa schifo, si può dire che fa schifo. Ma che fa schifo? Perché siete indignati? Andate a protestare contro quelli che pescano etica. I pesci, allora. Ma è una questione di etica. Ma che etica? Non rompetemi i coglioni con questa etica, basta. Ma scusami, ma se passassi la cosa che dici. Io guarda, sono talmente incazzato che io sono a favore del Festival dei Cani in Cina. Guarda, il Festival di Yulin. Perché devi essere perché sono così? Ipocriti quelli che protestano contro. No, lei mangia la carne, Cristina? E allora non rompa i coglioni ai cinesi che mangiano i cani. Chi se ne frega? Non rompa i coglioni. Non rompa i coglioni ai cinesi che mangiano i cani. Non rompa i coglioni. Non rompa i coglioni. Assolutamente. Allora perché? Allora cosa facciamo? I perbenisti? No, è lei che fa la perbenista, mica io. Se lei mangia la carne, non rompa il cazzo ai cinesi che mangiano il cane. No, c'entra. Sono pochi. Ma che estremisti? Mangiamo la carne qui, lei la mangia benissimo. Se qualche cinese in qualche festival mangia il cane allevato, non è che vanno in cerca, non è che vanno in cerca per nelle case cinesi a strappare i cani ai proprietari. Non dite minchiate, dai. Se potessi essere cacciato, no? Ti vengono a mangiare. Ma che c'entro io? Ma che c'entro io? Ma che io sono un essere umano, è diverso l'essere umano da un animale. Ti dà affetto, ti dà la possibilità di esprimere. Mamma mia, dà affetto perché non ci può essere affetto anche nel coso, anche in una mucca, in un maiale? C'è un sacco di maiali che sono affettuosissimi. Eppure la mucca non la mangia. Ma chi se ne frega dell'India? L'India no, alcuni non la mangiano, altri sì. Vabbè, Cristina, ciao, Armando da Napoli, dai, tanto non si sente a cazzo. Armando, vai. Salve, buonasera. Eccolo qua, bello quella squillante, vedi da Napoli le linee come funzionano da Napoli, squillante la linea, bella, chiara. Ascoltami, meglio di quella di Parenzo, vai. Non sono né arrabbiato né deluso, è solo una questione che veramente, cazzo, non capisci che i cani hanno un'anima, che è completamente diverso il maiale, la mucca, sì, dal amico cane. Mio, io non ti sto dicendo non che bisogna approvare il cibo, l'anima è uguale per no, ma non dire l'anima, cane. Ce la possono avere anche altri animali, non è quello il punto, esatto, bisogna essere coerenti e non bisogna essere buffoni e ipocriti. Gli animali che trovano affetto, che si legano ai sì, figli, che Armando, crescono i figli, anche i maiali possono avere affetto, da questo punto di vista io do veramente ragione. I maiali non crescono i figli, non si affezionano alle persone. Ma chi i te l'ha detto? È pieno di gente che ha maiali che c'ha i cani dietro, che c'ha i cani? Stanno vicino, sì. Armando, io posso capire l'amore per i cani, però quelli che cucinano in Cina non sono cani da casa, sono cani da allevamento che nascono per essere mangiati, cioè non è che, ripeto, non c'è la retata dei cani per mangiarseli. Non ti voglio insegnare niente, però prometti una cosa, che se non te pensi alla differenza fra un maiale e un cane. Sì, ma guarda che per me c'è una differenza, è che c'è il maiale e il cane, che vuol dire? Cioè, certo che c'è differenza. Volevo dire a Parenzo che lui difende anche l'ultimo dei bastardi possibili sulla faccia della terra come esseri umani, e poi contro di te non si pone su questa questione dei cani, cazzo. Lucia, fermo, dice? Lucia, che è successo? Lucia, la puttana. Senti che bella risata. Mi hai chiamato, io ti ho risposto. Cara Lucia, stavi all'ascolto, significa che non stavi lavorando. Io come sempre vi ascolto. Sempre. No, io sempre non lavoro, pensavo dicesse. Comunque andiamo avanti. Ma guarda, Parenzo, sì, non incominciare a offendere. Sì. Perché io posso sentire la radio e lavorare. Sì. Ma stavi lavorando? Cioè, hai mai fatto, scusami Lucia, hai mai fatto un pompino mentre ascoltavi la Zanzara? Che orrore. Io sempre. Che beh, orrore, questo, che orrore. Questo è ottimo. Questo è, cioè, i tuoi clienti, che saranno orrore, sicuramente tantissimi. Ma ragazzi, non c'è nessuno, se, ancora sì, non hai capito. Allora, ragazzi, mi avete rotto i coglioni. Lucia è una mia grandissima amica, ancora non l'ho conosciuta. Andate in massa, voi puttanieri del Friuli. Ma adesso non mi vedono, c'ho le pannocchie. Come c'è le pannocchie? Scusa, che vuol dire che c'è le pannocchie? Non c'è, ma non è mai andato nessuno da questa qua, ma ti rendi conto? Che vuol dire? Che sei... Ma ascoltami, Parenzo. Andate tutti da Lucia. Che tu, io c'ho un antipatia con te, però cerca di non offendere troppo. Una prostituta di Pordenone, me la senti? No, di Codroipo, Codroipo. Va bene, nessuno avanti, tocchi Lucia, lo dico la anche nonna, ma agli nessuno amici. La tocca, non ti preoccupare che non la sfiorano nemmeno con una canna da ma pesca. Ma guarda che neanch'io ti tocco io a te, ma perché mi fai proprio altro schifo. Ma ci mancherebbe altro. Ma, perché ma mi fai proprio schifo. Perché ti fa schifo? Far diventare ma mi fa schifo, Parenzo, non è mio tipo. La prostituta di Codroipo di 80 anni, ma è una roba incredibile. No, che 80. 60, 70. Quanti anni hai, Lucia? Se sa, fra poco faccio 61, amore. Oh, tesoro, ieri ha chiamato una di 60 anni che mi voleva scopare, lo sai? Anch'io ti voglio scopare. No, che bello ambiente. Sporco come sei. Che bello ambiente che siete. Un bel ambiente siete. Ma tu, di maiali, ma tu mi attacchi però le malattie, però, Lucia, come fai? Ma che non malattia? Penso la polvere proprio, perché attacco. Io vado quali con malattie? Il guanto. La polvere, e io la polvere vado ogni 6 mesi a farmi le visite. Ma non tanto non c'è niente. A pagamento. A pagamento le visite. Che dicono le visite? Tutto a posto? Ma tutto ok. Che malattie ti sei presa nella tua vita da prostituta? Si sarei presa la prostituta niente. Sì, un qualche solo la tiroide e la pressione, basta. Ah, e la tiroide pure la pressione. La tiroide. Ma però non ti regge tanto quando più fai la zoccola. Tutti quei clienti che ci sono rimasti dall'orrore. No, dai, cioè, ma è morto qualcuno dopo essere stato con te? È morto tutti, sicuramente. Uno è morto, uno è morto. Vedi, come uno è ovvio, morto? Dall'orrore, dall'orrore. Uno è morto. Ma quando è morto, scusami? 10 anni fa. Cioè, ti è morto lì mentre scopava con te? Era l'ultimo. No, ma non ci credo. Ma come è arrivato lì ubriaco, si è svegliato dal letto il giorno dopo. Mamma mia, cosa ha fatto? Cruciali, ti giuro. Ma come ha fatto non a morire? Non potevo partire perché è morto dentro. Te lo dico io com'è. Come è morto dentro? Te lo dico io com'è. È morto dentro il camper. Quello no, è io pensavo ubriaco dentro mentre c'avevi. No, ti spiego. Stava oh, dentro mamma di te. Mia. Quello è arrivato lì ubriaco che non aspetta, vedeva. Distingueva il giorno. Aggiornamenti su questa storia dopo la pubblicità. 10 anni fa, Lucia nel camper. Per uno è morto mentre se la scopava. Fermi tutti. E adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la Zanzara. Ce l'ho a morte con Parenzo. Perché allora aspetta, a me mi ha dato della vecchia, della nonna, questa che ha chiamato ieri sera. 65 anni, mancava poco che gli leccava anche dentro il buco del culo. Guarda che i cani hanno dei sentimenti, provano dei sentimenti, imbecille. È scientificamente provato. È inutile che fai queste distinzioni con gli altri animali, i bovini. Il cane e il gatto, dal TAC che hanno fatto scienziati di tutto il mondo, riconoscono le persone, capiscono la parola delle persone, capiscono il nostro linguaggio. È scientificamente provato in forma di ignorante. Troppo facile essere contro il festival dei cani là, del cibo, dei cani magnati a Yulin in Cina. Troppo facile, mentre poi vi mangiate di tutto qui in Italia, è troppo facile. Parenzo, che vuoi dire a Lucia? No, Lucia, voglio dire una cosa molto molto semplice. Adesso abbiamo appreso un nuovo dettaglio. Il mosaico, diciamo, del quadro di Lucia si arricchisce di un nuovo elemento. Cioè? Non solo è una vecchia, simpatica, anziana, prostituta ma di che Codroipo. 61 anni è vecchia, 61 anni. Ma veniamo anche a sapere che ha anche ucciso, praticamente, perché così è andata, una persona. Ora, questa persona qui è molto probabile che sia andata così i fatti. Questo signore è arrivato molto molto ubriaco, non sapeva distinguere il giorno dalla notte. No, è arrivato, ha fatto quel che doveva fare. La mattina si è risvegliato e ha detto: mamma mia, che oddio, ha visto infarto, la persona. No, no, no, morto, no, seccato, così è andato. Cioè, ti sta dando dall'assassino. No, no. Com'è andata la storia? Com'è andata? Ma lui era un mio cliente. Sì, figurati. Sì. Veniva ogni 15 giorni. Ma... sì, sì, sì. Quando è venuto mi fa, dice, sai, c'è un po' di problemi, sì, è morta mia mamma, tutto quanto. Ho detto, ma non sta, parliamo di queste cose qua, detto io. Certo. Allora facciamo. Lo facciamo? Facciamo, scopiamo. No, lui non scopava. Che faceva? Pure in dettaglio. Che faceva? Vabbè, chi se ne frega, non importa. Che Calippo. Calippo, beh, sì, pompino. Mamma mia, ragazzi, ma mi fa questa signora ha detto, qua, Calippone, ha detto. Già il fatto della prostituzione, ma in più un'anziana prostituta mi mette ancora a disagio, più a disagio. 61 anni, all'epoca ce n'era 50 però la signora. Pensa, no, ma neanche. Neanche, quando è passato, ma non è più che di la situazione fosse migliore, ti posso assicurare. Ma comunque, che ne sai, non l'hai mai vista tu, Lucia. Posso che ne intuirlo, lo intuisco. Ma no, no, è, tra l'altro anche questo gusto, diciamo, della colore della pelle che è, sarà sicuramente mulatta. Non c'ho neanche una ruga, caro. No, ma sarai mulatta. Tu sei pieno. Forse di quello è il problema, nessuna riga, nessuna... è anche mulatta, no? Anche l'attrazione di essere mulatta, mulatto o anche oscura proprio di carnagione? No, mulatta. Mulatta, c'è, cioè, la prostituta di 61 anni, mulatta di Codroipo, di origine soma, si chiama Lucia. Vabbè, allora che è successo? Allora, cioè... questo è venuto, sì? Io mi fai solo questo, sì, ho detto va bene. Sì. Dopo un po' vedo che cade per terra. Beh. Cioè dopo il Calippo? Sì. No. Quando? Durante? Mentre facevo il clippo è caduto per... Non ci posso credere. Ma ti giuro. È un'assassina pure. Che non dovessi arrivare a casa. Cioè, allora tu praticamente mi stai dicendo che mentre facevi un lavoro di bocca abbiamo a questo capito, cliente... Abbiamo capito. Ma devo dire questo cliente, questo qua è schiattato. È morto. Perché appena si è reso conto allora che aveva davanti... Allora io agitata chiamo la mia amica. Ecco, perché non hai chiamato bella, la polizia, scusa. Un'altra bella. L'ospedale, l'ambulanza. Il colpo finale. Sì, no, ma come l'amica, che ti chiamava che è la morta anche amica, lei? La famosa amica della prostituta di 60 anni. Pensa che altro c'è, è pronto soccorso, che... qualcuno. Perché hai chiamato la tua amica, scusami? Ho chiamato la mia amica, ho detto, Madonna Santa, questo qui sta tutto tremando. Come devo fare? Come me? Chiama l'ambulanza. Sì. Arriva l'ambulanza. Sì. Che era già morto. Era già morto. Di che? Di infarto? Di cosa? Di droga? Di infarto. Schiattato mentre tu gli facevi la pompa. Ma non ti hanno indagato niente? Non ti hanno indagato nulla? No, aspetta. E l'ambulanza dice, perché cosa è morto? Cosa ne so, ho detto io. Mi vergognavo di dire quello che era fatto successo. Un calippo. Sì, certo, il calippone. Mi dico calippone. Allora... Ma tu sei specialista nel calippo? Non lo so. Dicono, vabbè, qualcosa diranno. Allora, come si chiama? Chiamano i carabinieri. Sì, sì. E i carabinieri dicono, perché cosa è morto? Cosa ne so io? Venga qua, Lucia. Dica. Scusa, come l'hanno trovato? Devi... Come l'hanno trovato? Con la patta di fuori oppure rivestito? No, io ho tirato sulle mutande. Ah, gli hai tirato sulle mutande prima? Sì. E perché non l'hai lasciato lì con l'uccello di fuori, scusami? No, mi vergognavo io, dai. Era nel mio camper. Ah, ti vergognavi, fai la puttana e ti vergogni. Ma, cosa ma mi vergogno quando vedo l'ambulanza è arrivata. Capito, Parenzo, si vergogna. Mi vergogno io di queste cose. Tu hai figli, Lucia? Sì. Hai figli? Quanti figli hai? Due. Che dicono che fai la puttana? Non lo sanno. Ma dove stanno? Che io faccio la badante. Ma dove stanno? In Somalia, in Italia? Dove sono? No, sono con me. Sì, lascio in Somalia io. Ma scusa, con ma la guerra che c'è. Ma quanti anni hanno questi figli? Sono un po' grandicelli. Ma scusa, non ascoltano la Zanzara? Che ne sai? No, non ascoltano. Che ne sai che non ascoltano? Magari non ascoltano. Ascoltano. No, ma dai, non è vero che c'hai figli. Dai, magari ascoltano. Sì, c'ho i figli, ma non ascoltano. Ma non è possibile. Qualcuno magari ma qualcuno glielo può dire. Vabbè, com'è finita la storia di quello morto dopo il calippo? E dopo è venuto, sono venuti i carabinieri, mi fa dice, Lucia, adesso tu mi devi dire la verità, perché cosa è morto? Per un pompin. Proprio così gli ho detto. Per un pompin. È tutto molto... Ma sai, non è neanche osceno, è proprio schifoso la scena di questa, della vecchia. Chiama l'amica, io agitata, Parenzo. Chiama l'altra vecchia, lì l'altro cesso a pedali di amica, perché amiche brutte tirano amiche brutte, ovviamente. No, mai viste. Ma io, guarda, Parenzo, vanno ma tu in coppia, vederti un morto... Adesso io rido perché ormai, ma io in quel momento ero agitatissima, ma certo, mancava... assolutamente. Credo. Senti, quanti com'è finita la storia? T'hanno incriminata? No. Ma hanno tirato fuori il morto quando è venuto il, come si chiama, il pretore, non so chi ma deve questo venire. Era sposato? Non lo so io. Non sai niente. No, dice che era un cliente abituale. Sì, ma io non chiedo sei sposato o non sei sposato, non chiedo niente io. Non chiedi mai nulla, eh? Non hai un cliente fisso, un abitué, diciamo, no? Io sì, ce n'ho di abitué, ma non chiedo, anche se oggi che hai fatto? Oggi hai lavorato oggi? Oggi uno ho fatto. Uno, ma era un po' uno caro. Buono, basta. Buono che vuol dire? Cioè, quanto buono? Ti ha lasciato un centinaio almeno? No? Magari. Niente, 50. Quanto ti ha lasciato? Ecco. 50, amica mia, 50 euro hai fatto oggi. Stasera poi ti ritiri oppure resti lì? No, vado a casa stasera. E solo come cazzo fai a campare con solo 50 euro? Ma non importa, io vivo di giornata. Capito, Parenzo? Sì. Capito? Come Parenzo che sono miliardario. Ma quale miliardario? Ma cosa dici? Venda quel camper lì, venda quel camper, si trovi una vita normale anziché uccidere le persone per strada. C'ha 61 anni ormai. C'ha 61 anni, che deve fare? Scusate. Se devo mettermi a discutere con... ma figuriamoci, parli tanto. Se mi devo mettere a discutere con una prostituta di 60 anni al telefono, schifo. Perché ti fa schifo? Sei anche ebreo. Sei anche ebreo. Ma cosa c'entra quella? Io preferisco te, anche se bene. Sei sozzo. Che bella pubblicità che ti ha fatto. Sei, guarda, anche Luciani. Un ebreo. Ancora questa storia. Vedrai che bella pubblicità che ti ha fatto. No, chi? No, dico il fatto, il bacio della morte di Lucia Cruciani. Figuriamoci, sono felice che piace. Che problema c'è? Il bacio della morte. Infatti, ascoltami, qui a Codroipo avevano persino paura di venire. Perché ma ti credo, perché lei è un mostro. Morire. Perché la usano nei Luna Park, che ragazzi, al posto della giostra dei mostri. Non toccatemi, Lucia, e clienti puttanieri di tutto il mondo, soprattutto del nord-est italiano, fate ogni tanto, non dico un'opera di bene perché lei dice di essere in forma, dunque magari è bravissima come prostituta, io non lo so, comunque è una piccola impresa. No, vieni, ti offro anche un caffè. No, ma io verrò sicuramente, prima o poi verrò. Figurati. Però al di là di ti questo, offro anche un caffè, quello che vuoi. Sto chiamando, sto facendo una specie di chiamata alle armi da parte degli ascoltatori del nord-est. Non troppi, però andate a trovare Lucia, lasciate quello che volete. Ma la maggior parte mi vengono e dicono: ma tu telefoni la Zanzara? No, ma quando mai? Ma come io no? Non ma tu conosco neanche la Zanzara. Ma sei pazzo, ma tu devi scriverlo fuori: la puttana della Zanzara sul camper. Dobbiamo fare la bandiera. Questa è la puttana della Zanzara, amici miei. È no, una piccola impresa. Perché Parenzo dopo mi fa un'altra pubblicità. È una piccola impresa del nord-est, caro Davide. Dillo agli industriali che ci stanno ascoltando, ai nostri padroni. Legalizziamo, è una piccola impresa del nord-est. Ma è un'impresa Lucia la fallita già a prescindere. Va male come tante imprese. Dicendo quel mostro? No, io dico che vada localizzata. È il classico, è la classica impresa che dovrebbe andare all'estero. La classica impresa. Auguriamoci una fuga di cervelli. No. Assolutamente, sì. Lucia, ascoltami, come tante imprese Parenzo, italiane vanno male. Parenzo, adesso io ti devo dire una cosa. Dillo. Io e te siamo dello stesso partito. Oh, questo è importante. A me mi piaci perché difendi sempre i deboli. Lo vedi? Ma io voglio sapere, non sono un debole per te, io che sono una povera. Non ti faccio pena che mi offendi così? Ma ha ragione. No, non la offendo, lei mi sta anche molto simpatica. No, non mi sta, no, la offendi, no, la offendi, lei sempre offesa. Anche... Io sono stesso partito tuo. Cioè sei di sinistra. Silenziosa. Ecco, sei di sinistra. Sempre tu. Di sinistra. Cioè tu vuoi per esempio gli immigrati in Italia? No, quelli in regola. Quelli in regola, quegli altri che facciamo? Quelli no, che... no, io vado più d'accordo con i cristiani che con i musulmani. I musulmani ti fanno orrore? No, via. Raus. No, perché sono arroganti. Raus. Senti, io non ho capito una cosa, quando tu hai finito di fare quella specie di pompino a quello che è morto, dopo hai avuto una brutta nomea, immagino, la puttana che ha fatto morire un cliente. No, ma i contadini hanno fatto, sai che la pubblicità più veloce è quella del camper, muoiono i clienti nel camper. Lo so, amica mia, lo so. Comunque, ragazzi, una piccola impresa del nord-est ha bisogno del vostro aiuto. Ma non è vero. Il camper della Zanzara. No, non parlare così, Cruciani. Il camper della Zanzara. Se vogliono venire, vengono. Se no, io mangio lo stesso. Brava. Io dico sempre così, io mangio lo stesso. Concludiamo con un attacco a Parenzo. Vai, Lucia, vai. Parenzo, io ti voglio bene, perché mi offendi così? No, ma io non ti offendo. Dai, dai un bacio a Lucia, dai, un bacio con la lingua. Per l'amor di Dio, mamma mia. Dai un bacio con la lingua. No. Ciao Lucia, ciao tesoro, ciao. No, io faccio altre cose. Io cago addosso ai clienti. Cruciani, mia amorosa porta la cavigliera e mi dà pure il culo. siamo al top. Amico mio, se ti piace così, certamente sei parenziano, da questo punto di vista sei parenziano a metà, al 50% sei parenziano. Gastone, provincia di Vicenza, signor Gastone. Gastone, ce ne sono pochi ancora così. Gastone ce ne sono pochi, effettivamente ce ne sono pochi, sì, perché è un nome ormai desueto, un nome che ricorda, non dico l'Ottocento, ma insomma anche l'inizio Novecento. La belle époque, Gastone, sembra quasi ridicolo oggi dare il nome, alla tua età, insomma, però. un ragazzino. Vabbè, allora Gastone, dimmi. No, io voglio dire che sono con te per il discorso degli animali. Io rispetto gli animali, sono un animalista, li amo, li adoro, allora? Però non sopporto quelli che fanno distinzioni. Okay? Quelli che fanno? Distinzioni. Ah, distinzioni, sì. Il bambino bianco è bello, il bambino brutto. Ma sì, ma se i cinesi si vogliono mangiare i cani, ragazzi, ma chi se ne frega? Un piccolo festival, ma poi finisce. Ma non me ne frega, li fanno soffrire, qualche migliaio di cani che vengono ammazzati lì. Come fai però a dirlo così? Cioè, che non ti faccia neanche impressione. No, non mi fa impressione, devo dirti la verità. Non mi fa impressione perché altrimenti mi dovrebbe fare impressione anche un suino squartato. Ma no, anche una mucca squartata, un bovino. Nella nostra cultura, ma no? Cosa siamo vuol dire? Ma non mangiarlo. È vero, guarda, in provincia di Vicenza, no. Gastone sa che si mangiano ancora i gatti. È infatti impressionante. Dai, Giuseppe da Vercelli, vai, Giuseppe da Vercelli. Giuseppe, vai, dimmi. Sì, buonasera, volevo... dire che mi spiace che spesso non mi trovo d'accordo con Parenzo, però stasera devo dargli ragione quando dice che lì al CARA di Mineo si trovano, insomma, dovrebbero avere un po' più di comodità, di ma ce le hanno, ce le hanno, ma che fresco di che? Ma se gente in Italia che non c'è l'aria condizionata nelle case, che cazzo vuol dire? Al CARA di Mineo farà caldo, pazienza, adesso fa caldo, domani farà più freddo. A Vercelli sono amico di Obas, che è un parcheggiatore. Va benissimo, anch'io sono qua. Sono 7 anni che in Italia speravo di trovare l'Eldorado E allora che cazzo vuole? Una colletta per tornare in Nigeria. E che c'entra? E lui mi dice, l'altro giorno mi ha detto, gli ho detto, bah, senti che caldo africano. E lui mi dice, ma cosa caldo africano? Ma qua si muore, c'è caldo, c'è umidità, in Nigeria si sta bene. E vabbè, non pazienza, a parte umidità. Che dipende dove naturalmente, se nella capitale o no, ma qual è il punto? Non ho capito. Al CARA di Mineo, secondo quello che racconta Salvini, poi non so se è vero o no, protestano perché fa caldo e chi se ne frega, cioè non possiamo dire chi se ne frega, che dobbiamo piazzare Parenzo i condizionatori lì? Beh, sarebbe sì, anziché fare battute stupide anziché fare battute stupide deve essere almeno delle ventole per far girare l'aria, cioè, la proposta di Parenzo è questa, i condizionatori al CARA di Mineo. Ho detto almeno il minimo sarebbe il minimo, almeno condizionatori delle oppure le ventole al CARA di Mineo. Sì, benissimo. Sai perché? Perché come tu sai, sai non essendo mai stato al CARA di Mineo, CARA di Mineo sono delle baracche, perché il CARA di Mineo era un'ex base, come tu ben sai, americana, e quindi il caldo che penetra in quelle lamiere, in quelle casette, rovente, è ancora più rovente, sì, rovente, cioè, hai poco rovente, da ridere rovente. E adesso non fare che chiamerà uno chiameranno gli imbecilli. No, adesso non finisci proprio niente, sì, dice, è finito, vai avanti. È finito. No, adesso vai avanti, perché devi raccontare che invece in queste strutture si surriscaldano e c'è ancora più caldo che nelle normali piedi, case. Ti sei alzato mi in piedi. Sono alzato i piedi perché mi fai incazzare. Non è finito al CARA di Mineo, fa caldo. Vai avanti. Ce ne fottiamo! Ce ne fottiamo! Ce ne fottiamo! Vai a vedere com'è la situazione. Domani farà più freddo. Nelle case degli italiani molti non c'è l'aria condizionata. Al CARA di Mineo se fa caldo. Ce ne fottiamo. Noi con Cruciani ce ne fottiamo, chiaro? A domani, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Perché tu sei riccione, tu sei.